Parenzo, caro Parenzo, amico mio. Beh, mi pare che, a parte questa introduzione meravigliosa di La Corte con me ne frego del grande Achille Lauro, che ha sdoganato una cosa che io non pronunziavo, ma che ora invece si può cantare a squarciagola, mi pare che questo colloquio che è questa conversazione che hai rimandato in onda tra Lores e Gottardo, sì. Sì, da Lores lì, ha raggiunto vette altissime, imbarazzanti, oserei dire. Ora io dico una cosa, se fosse accaduto, che ne so, a un Salvini o a un Giordano, anzi, cosa, o cosa? Del Debbio, e di Mario di avere un incidente, aspetta, di avere un incidente come quello che ha avuto Oliviero Toscani, no? E lo chiamo incidente senza voler minimizzare assolutamente, sì, sì, sì, l'abbiamo condannato in tutti i modi. Certo. Se fosse accaduto una cosa del genere, uno dei tuoi amici, uno dei tuoi conoscenti, una delle persone che stimi di più, il signor Gad Lerner, come avrebbe reagito secondo te? No, dimmi, come avrebbe reagito fosse capitato a Mario Giordano? Non lo so. No, prova a immaginare, cosa sarebbe accaduto. Ma mi pare che non si risparmino critiche. Editoriali di fuoco, no? Beh, ma mi pare che ci siano editoriali di fuoco anche su Repubblica ieri. Però chissà perché, il tuo amico, io lo stimo pure, per carità, non ho nessun problema. Però siccome non ho i parocchi, non è che ragiono come amico nemico. Signor Lerner, senti cosa scrive del signor Toscani. Toscani, che ripeto per l'ennesima volta, perché non sfugga a nessuno, che ha detto una cosa molto precisa: a chi interessa che caschi un ponte. Poi uno lo può interpretare in mille modi, l'abbiamo già fatto negli ultimi due giorni e forse anche troppo, però stasera ci torniamo sopra ancora una volta. Lerner ha scritto: Oliviero Toscani è una geniale testa di C, non dice testa di cazzo, eccetera. Un grande artista, un innovatore che per amore di battuta, per amore di battuta, amico mio, può lasciarsi scappare terribili bestialità insieme a tante verità scomode. Ah, terribili bestialità, si è scusato, era il minimo. Ma la Benetton, che interrompe la collaborazione con lui, riesce a farci una figura ancora peggiore. Ce l'ha messa come te? No, su Benetton sì, certamente. Ma per amore di battuta, senti questo, per amore di battuta. No, nel senso per che amore la pensa di battuta. Esattamente come te, però su Benetton sì, per amore di battuta. Infatti non è un problema, sto dicendo per amore di battuta. Secondo te sarebbero state le stesse parole? No, vabbè, però se l'avesse detto un Mario Giordano, pensavo un'altra cosa. Un sì, guarda, gli ha detto che era una testa di cazzo, su, una geniale testa di C. Ma sì, vabbè, ragazzi, non mi sembra usa che l'abbia tutte giustificato queste in modo. Avrebbe detto che è un grande giornalista Giordano se avesse fatto una battuta del genere. Lo ha detto che è stato grande giornalista, ragazzi, invece, perché ha fatto sempre un articolo. Stai a difendere pure. No, questo. No. Comunque, ha ragazzi fatto un articolo. Non l'hai letto? Ha fatto un articolo sul Venerdì di Repubblica la settimana scorsa, in cui ha detto: non Mario Giordano, ho la colpa sul di averlo fatto. Di Repubblica, sì, cose che non legge nessuno. Dove giù, ha detto? Giù, no, leggo giù, le cose. Giù, dove giù, ha detto? Giù, l'ho fatto giù, diventare io giù giornalista. Allora, posso dire una cosa? Andiamo sul Festival di Sanremo un attimo, per una piccola cosa. Sapete che ignoro questa settimana del Festival, fastidiosissima, eccetera. Al di là del al di là dello scontro, ho di te anche dei filmati imbarazzanti che prima o poi diffonderò. Sì, sì, diffonderò, perché sono persone. Diffonderò Urbi e Torbi. Io che ballo con i bambini davanti al Festival, certo, la sera, una cosa ovvio. Tiene insieme diverse generazioni il Festival. Allora, questo è bello. Allora, c'è una cosa che non sopporto, che non riesco a sopportare, non riesco a togliermi dalla testa, è l'impazzimento che c'è sulla questione della violenza nei confronti delle donne, che per carità, cioè, no, nessuno nega che sia un problema, che è però il filo conduttore del festival. Ogni sera peraltro ci dobbiamo assorbire una rottura, si devono assorbire, perché a me non me ne frega un cazzo. Beh, il 53% della una prezza, rottura si di coglioni sulla violenza sulle donne. Sei in contraddizione, perché è un record assoluto. Sì, ma non c'entra niente, ma come non no? Me ne vuol frega dire nulla. Ma vuol dire che non lo reputano una cosa noiosa, ma come dipende, dici tu? Che ne sai, magari alcuni lo vedono no? E alcune parti sono rottura di cazzo. Lo avrebbero scritto, invece non mi pare nessuno l'abbia scritto. Senti questa roba, partiamo da una cosa incredibile. A un certo punto, per caso, ieri tornando da Del Debbio, mi sono messo a vedere il festival per un attimo, 10 minuti, poi mi sono rotto il cazzo. Mi sono imbattuto nella canzone del signor, come si chiama? Piero Pelù. Alla fine della sua performance, bellissima, spettacolare, non mi ricordo cosa cantava, non una canzone sua, una canzone del padre, Bobby Solo. Beh, perché ieri era la serata delle cover. Sì, per sì, forza. Sì, le cover. A un certo punto il signor Pelù se ne esce ed aveva il lutto al braccio. Il sì, lutto certo al braccio. Sì, ma è bello, al che, gli artisti, è il bello lutto che gli artisti al braccio, sensibilizzino. Amico mio, il lutto al braccio. Ma certo. Senti perché. Ma è bello perché che gli artisti sensibilizzano. Vado ai matti. Energia allo stato puro quando c'è questa fascia. Piero Pelù. La fascia. Questa fascia. Piero Pelù, la fascia. Perché ogni tanto. Mi vergogno di essere un uomo. No. Ogni no volta che c'è un femminicidio. Perché? Bravo. Ma perché? Grazie, Pino, grazie. Bravo, bravo. Ma perché uno si deve vergognare di essere un uomo? Che c'entra l'uomo? Ci deve essere una riprovazione generale. Ma come i vegani che si vergognano di essere umani, ma perché no, ammazzano, ma, ammazzano, ma gli i animali. Ma i vegani cosa c'entrano col tema della violenza sulle donne? Ma è la stessa cosa, mi vergogno di essere dai. Uomo. Tu ti devi vergognare per quelle persone. Ma c'è anche un concerto fatto solo da donne per dalle artiste. Altra roba. Laura Pausini, cioè, è un movimento che per fortuna acquista una grande consapevolezza. Per fortuna. Senti qua, un'altra cosa che ha detto una cantante. Ascolta, che tu non hai mai Levante. Sposato nessuna, Levante. Nessuna, nessuna, non hai mai sposato nulla in vita tua, io nessuna vado battaglia. Vado nessuna, e critichi quelli che sposano una battaglia contro è, il femminicidio, peraltro, di contro la violenza. Davide, è una rottura di coglioni ogni sera sentire per le te. Stesse cose. Una ma rottura di cazzo. Per fortuna il 53% degli italiani, l'Italia te l'ha spiegato persino Adinolfi. Non è un'emergenza in Italia. Ma chi cazzo è Adinolfi? Ma è molto meglio di questi stronzi. Da questo punto di vista è molto meglio di questi quattro. Ah, gli artisti impegnati contro la violenza sulle donne. No, ma non è quello. Di questi qua è che ci fanno, il tema. Ci fanno gli artisti testa che così. Si impegnano per delle battaglie importanti. A te stanno sui coglioni perché non ti sei mai impegnato quello, su nulla. È tutta propaganda, è il tema. Non c'è niente. Ma quale quello propaganda? Che si mette lutto al braccio e si vergogna di ma essere uomo. Ma gli artisti uomo. Che modo hanno per far passare dei messaggi? Vabbè, se non quello uno si deve vergognare di essere sono uomo artisti. Ma io non dico che non è giusto impegnarsi. Dico semplicemente uno tema. Che si mette un lutto al braccio. Ma lo fa perché è un artista. Ognuno usa gli strumenti che hanno. No, e dice bisogna vergognarsi di essere uomini. Non bisogna vergognarsi di essere uomini. Ma scusa, non ognuno usa gli strumenti sto, che ha per far passare le un grande messaggio. Sto valutando le parole, Davide. Ma le parole. È un artista, è no, un poeta, parole, è un cantautore. Certo. Levante. Poi basta Sanremo, mi sono rotto i coglioni. Levante. Quando Sanremo presenta poche donne al festival, pure. Non è un errore di Sanremo, è, un è la punta dell'iceberg, è un errore che parte dalla base. Nella musica siamo poco supportate, personalmente mi sono resa conto donne sono poco che a pari merito una sì. canzone scritta da un uomo, una canzone d'amore scritta da un uomo, pesa di più di una canzone d'amore scritta da una donna. Non gliela posso fare, ragazzi, non gliela posso fare. Poi si arriva a questo, non gliela posso fare, non ce la faccio. Poi non ho nemmeno gli strumenti per dire vero o non è vero. Penso che non sia vero. E non è che ho in mano gli strumenti per dire c'è una discriminazione nei confronti delle canzoni scritte dalle donne. Non credo che ci sia. Però magari è vero, non lo so, ma mi sembra improponibile questo non come lo so. Appunto. Mi sembra invece interessante. Questo non lo posso dire, non lo so. Appunto. Mi sembra invece interessante fermi, tutta fermi, la cosa fermi. Che il festival ha costruito fermi. Sulle donne. Questo sì. Interessante. La Zanzara. Master. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. L'immagine della famiglia Parenzo sul divano con birra e patatine che guarda il Festival di Sanremo è quanto di più pornografico e aberrante che la mente umana possa sopportare. Credo che questa immagine mi accompagnerà per settimane. Io spero che non saranno anche delle belle settimane, ragazzi. Ha ragione il demone scimmia. Il declino è giunto. Il declino è giunto. Poi alla fine dopo questa melassa, che per carità adesso qualcuno mi accusa, hai detto delle cose gravissime, cioè io non ho detto, certo, aspetta, stai tranquillo perché bisogna spiegare agli stolti, a questi cretini che mi dicono tu non hai riguardo nei confronti delle donne, della violenza, leggo un sacco di messaggi, che io non ho detto che sono a favore della violenza, ci mancherebbe altro, ho detto solamente che... Sappiamo tutto. E ho paura che dopo le uscite. Ma come no, ragazzi? Sappiamo ma che c'è tutto, di nuovo che è stato proposto? Ci vuole una sensibilità ma c'è di tutto, ci sono roba. Campagne di qualsiasi tipo sulla. Ma ho capito. Le campagne a cosa basta, servono? Basta. A creare canzoni se volete. A me non me ne frega un cazzo. Serve, non serve. Rotture di cazzo. Ma quali sono le rotture? 53% degli italiani la pensano diversamente da te. Ma chi l'ha detto? Ma la gente che guarda non è che approva per forza. Che festival tutto tutto costruito basta, sul tema donne porro, e porro, quant'altro. Porro sul fatto che le sardine vanno a incontrare. So che hai incontrato una sardina anche tu, Sì, oggi eravamo insieme a Tagarano. Mamma mia, che fortuna che c'è. Un ragazzo anche molto simpatico. Sì, una persona per bene. Porro, le sardine incontrano. Questo è incredibile. Le sardine devono incontrare dei ministri. Giustamente Porro si incazza. No, ma non solo, vanno dagli operai della Whirlpool, però anche. Gli operai della Whirlpool. Io ti vanno giuro. Vanno a Napoli dagli operai della Whirlpool. Ti giuro, spacco qualcosa oggi. Ci giuro, oggi se mi. Cioè, se non devono andare neanche agli operai della Whirlpool. Ancora su questa strada vanno stasera. Vanno dagli operai della Whirlpool. Tra le donne a Sanremo. Le sardine vanno che vanno in mezzo agli operai della Whirlpool. Vanno dagli operai della Whirlpool. Spacco qualcosa. Ma fai molto male. Spacco qualcosa. Fai molto male. Dovresti andarci anche tu per dai, capire che il dramma degli operai che della... vanno in mezzo agli operai della Whirlpool. Vanno a incontrare gli operai della Whirlpool. Non ne posso più, non ne posso più. Stasera già iniziamo molto male, iniziamo. Vai, Porro. Fermi tutti! Toc toc! Sapete che succede? Le sardine incontrano prima il ministro Provenzano e poi il ministro Boccia la settimana prossima. Ma che cosa devono dire? Ma perché? Perché? Ma non ho capito. Lui può incontrare Boccia, Mario Giordano. Boccia, autonomia, ma l'ottimo Porro. Cosa c'entra? Le sardine. Provenzano ha invitato il ministro per il Sud, ha invitato le sardine. Flusso, non interrompere il flusso, la poesia. Ma quale dai, flusso? Su. Ma come che. Ma perché Boccia e Provenzano, a cui voglio bene tutti e due, mi stanno simpatici, mi sembrano delle brave persone, devono incontrare le sardine? Ma che cazzo gli devono dire le sardine a Boccia e Provenzano, al ministro delle autonomie e al ministro del Sud? Cosa? Un bolognese col cerchietto va da Provenzano e gli spiega qual è il problema del Sud. Il suo unico problema sono i decreti di sicurezza. Per il resto, manco la prescrizione sanno che cosa devono fare. Giusto, vai, l'attacco. Gli devono spiegare com'è andata la foto con quell'altro. Gli devono spiegare perché Ogongo non sta più con loro e invece ci sta quella di Reggio Calabria. Ma perché il ministro del Sud e il ministro delle autonomie deve vedere le sardine? Ma che cazzo si devono dire con queste sardine? Me lo volete dire? Io voglio sapere. E poi, ma chi rappresentano le sardine? Toc toc! Voglio vedere anch'io Boccia. Tu puoi vedere Boccia quando ti pare, lo chiami, scusa ministro, devo fare l'intervista, e il ministro Boccia dice sì o no. Le sardine rappresentano un pezzo di società e i ministri le vogliono incontrare. Porro su Toscani, caso Benetton Toscani. Ma quante cose orribili ha detto nel passato Toscani per cui Benetton non l'hanno licenziato? Lo licenziano oggi? Lo sapete perché lo licenziano oggi? Perché loro, sì, sono degli ipocriti. Toscani quando gli era utile, quando faceva la rottura del pensiero comune, quando gli portava le sardine a casa, quando gli dava le loro pulizie, ma gli andava bene Toscani. Oggi invece è una specie di straccetto che possono buttare per strada come un bel padroncino che l'ha utilizzato, quel cretino di Toscani che si è fatto utilizzare, ne ha dette di tutti i colori nella sua ubriacatura molesta, ma solo oggi lo licenziano. Ragazzi, ma dai, ma c'ha ragione proprio a 3000, dai, è così la storia, dai. Comunque ragazzi, Spatalino. Beh, cioè, che se passi da Spatalino a Porro, non gli fai un favore a Porro, però, perché Porro è un liberale. Sono due persone diverse. Porro, però, io resterei un attimo. Metti due audio vicini, l'altro uno che batte così. Infatti, in mezzo uno devo mettere batte, una sardina, hai ragione. Metto una sardina in mezzo. Se tu metti. Metto una sardina in mezzo. Metto Porro che dice toc toc. Ma Porro viene dalla scuola di Antonio Martino. E gli metti. Ora ormai è sovranista. E gli metti vicino Spatalino. Non gli fai un favore a Porro. Metto in mezzo la sardina, questo che hai incontrato tu oggi, questo donnoli, eccetera. Che a un certo punto gli chiedono: scusi, perché a Scampia c'erano quattro gatti? Senti come risponde: signor Donnoli. Ma ero lì con lui, ero pazzesca. Dai. No, ha spiegato perché c'erano poche persone, certo. Perché sono i comitati di Scampia, non nazionali. Cazzo, certo. Le sardine stanno raccogliendo una voglia di reagire che già esiste. E questo è il punto. Reagire. Scampia, che si dice realtà deteriorata, un'immagine. Invece è un luogo in cui dal verde al sociale ci sono esperienze molto innovative e che ha avuto una reazione popolare, cioè un territorio che viveva dei disagi. Dunque? Che dice noi alle bugie e alla propaganda di Salvini non abbocchiamo, a prescindere dalle sardine proprio. Quindi esiste una reazione popolare importante. Ah, ho capito. Dunque, siccome c'è già una reazione, non sono venuti al nostro appuntamento. ad Ornoli. No, queste erano quelle di Scampia, non erano quelle nazionali. Appunto, dico, per erano i gruppi che già ci sono. Mamma mia. Se no dai una fake news. Mia. Quelli erano, è una manifestazione locale. Mamma mia. E allora cambia, di che non è andato nessuno. Proprio propaganda pura, pura propaganda fate. Una cosa incredibile. Ma prescindere dal ponte, da quell'idea di economia e quell'idea di capitalismo, sì, l'assurdo, lo dico anche al signor De Manzoni, giusto? Sì. Cioè è che è un giornalista, sì, quel giorno un gruppo di ragazzi che ha creato il movimento popolare di partecipazione civica più innovativo degli ultimi 40 anni in Italia, fa una lettera al Presidente del Consiglio in cui si parla di sicurezza sul lavoro, di economia ecosostenibile, eccetera, eccetera. Beh, il movimento popolare più importante degli ultimi 40 anni. Ho detto tutto, ragazzi. Come dici, come ogni tanto dici tu, basta, la seduta è tolta. La seduta è però tolta. Però in questo caso, la seduta è tolta. Hanno vinto l'Emilia Romagna. Roberto da Milano. E quell'altro non doveva il movimento popolare più importante degli ultimi 40 anni. Basta, non ho più nulla da dire. Roberto da Milano, dai. Questo è questo signore Donnoli. Come cazzo si chiama? Pronto? Roberto, dimmi. Pronto? Dimmi. Ciao, buonasera a tutti. Vai, dimmi. Piccolo concetto, nave Pelioni, buonasera, a Civitavecchia con persone, con documenti e tutto schedate. Navi libere in arrivo con persone che non sappiamo neanche da dove arrivano, sì, per presunti casi di coronavirus. Roberto, cosa desideri? Richiudiamo i porti. Ah, richiudere i porti. Ma i porti sono sigillati, non ti preoccupare, che anche questo governo non ha fatto un cazzo, cioè ogni tanto fanno sbarcare qualcuno, ma non ti preoccupare, la gente che viene dalla Cina, secondo te bisognerebbe bloccare comunque tutti i porti, non far arrivare tutti, nessun immigrato. Bravissimo, perché l'Italia è patrimonio dell'UNESCO da nord a ma sud. Cosa, UNESCO al massimo, non UNESCO, ma cosa c'entra, scusa, non ho capito. Tutto, bisogna proteggere la nostra Italia. Ma da chi bisogna proteggere? Da tutti, ma da cosa tutti vuol dire chiudere i porti per proteggere l'Italia che è patrimonio dell'UNESCO? Ma che ti ha dato di volta il cervello? Certo, ma ti sei bevuto il cervello? Che cosa ti sei bevuto stasera? Giovanni da Milano. No, Coca-Cola. Giovanni da Milano. Oh. Dimmi. Buonasera, io volevo intervenire in merito al fatto dei femminicidi, no? Femminicidi. Volevo dire che purtroppo la cultura umana è questa qua. Se lei vede Gea, la madre terra, era la madre di tutti gli dèi, però non comandava i suoi figli che i mariti gli ammazzava. Ma cosa c'entra questo, scusa? Medusa fu resa tale perché era stata violentata in un tempio di Atena. Cosa pare vuoi dire? Non ho capito. Voglio dire che la cultura umana ha sempre vessato la donna perché ne e ha allora avuto paura. E allora? Niente, quindi quando tu per esempio non riesci a capire che cos'è un femminicidio. Ma chi è che non riesce a capire? È differente dall'omicidio. No, è uguale, è l'omicidio di una persona. È l'omicidio di una persona, appunto. Lo diceva Parenzo. Giovanni, no, ma il tipicizzare è un reato. Un omicidio si tipicizza è un omicidio. Blood un omicidio, Vlad D'Avellino, un omicidio è un omicidio, punto. Non ci vogliono pene in più, eccetera. Un omicidio è un omicidio. Vlad D'Avellino, vai, dimmi, Vlad. Sì, volevo parlare di maltrattamenti sugli animali. Che è successo agli animali? Io sono d'accordo quando dici che paradossalmente i cacciatori amano più gli animali di quei cazzo di vegani. Il problema della nostra società è che non si distingue tra violenza e ma che cazzo stai a dire che non si sente una mazza, ma vattene a quel paese. Il suo motore aggredisce la strada così e alla guida ci si rilassa così. Fuori c'è potenza, dentro c'è classe. Nuovo Renault Koleos Executive unisce lo spirito off-road alla classe di un SUV. A febbraio tuo da 389 euro al mese con soli 3.000 euro di anticipo in caso di permuta. TAN 4,99, TAG 5,91. Salvo approvazione fil Renault. Info presso la rete aderente e su Renault.it. Prova il nuovo motore blu DCI 4x4 190 cavalli. Eleganza, fascino, stile. Modena Antiquaria dall'8 al 16 febbraio a Modena Fiere. La mostra ad alto antiquariato più glamour d'Europa ti aspetta a Modena per regalarti grandi emozioni. Gallerie prestigiose, capolavori inestimabili. Lasciati conquistare dal fascino di Modena Antiquaria. Modenantiquaria.it. Acquista o noleggia, acquista o noleggia, acquista o noleggia, acquista o noleggia, acquista o noleggia, acquista o noleggia. Perché scegliere quando puoi averli tutti e due? Con Noleggio Chiaro puoi scegliere oggi l'auto di Fiat Chrysler Automobiles che desideri ed acquistarla dopo 3 anni a un prezzo garantito. Ad esempio Lancia Y è tua da 179 euro al mese con RCA, furto incendio, copertura danni e manutenzione inclusi nel canone. Offerta valida fino al 29 febbraio e soggetta ad approvazione Lisis. Durata del noleggio 36 mesi, anticipo 4.900 euro. Info su noleggiochiarofca.it. Bella idea, i bassi e fissi. Eh sì, da Conad ci teniamo. Ecco perché mettiamo ogni giorno a prezzi bassi e fissi quei prodotti che in casa non devono mai mancare, senza girarci troppo attorno. È un modo concreto per accontentare ogni famiglia. È proprio vero che una comunità è più grande di un supermercato. Conad, persone oltre le cose. La Zanzara. Ma io penso che vorrei essere il padre di questa ragazzina. Bene. Vorrei bene. Che fosse mia figlia, bene. Così la prenderei a sberle. No. Right here. Right now. Greta Thunberg. Yeah. Greta Thunberg. Sono un animalista, animal house. Dormo sotto le stelle tipo scout. Si è estinto koala prima che io ne assaggiassi uno. Tu ti estinguerai prima di aver estinto il mutuo. Io penso che vorrei essere il padre di questa ragazzina. Bene. Vorrei bene. Che fosse mia figlia, bene. Così la prenderei a sberle. No. Ce la posso fare meglio di mio padre. Io ce la posso fare. Greta Thunberg. La mia razza si estingue. Ce la posso fare meglio di mio padre. Io ce la posso fare. Greta Thunberg. La mia razza si estingue. Greta Thunberg. La mia razza si estingue. Greta Thunberg. Quanta gente che spinge. Greta Thunberg. La mia gola si stringe. Greta Thunberg. Quanta gente che spinge. Godo come un riccio. Godo. Godo come un riccio. Godo. She can never ever ever ever signor Cruciani, io sono un camionista. Te non puoi dire camion del cazzo, capito? Camion del cazzo non lo puoi dire a un autista. È come se io ti dicessi c'è la casa del cazzo del merda. Casa tua è una merda, casa tua è una merda. Questo gli ho detto a quello, hai capito? Unto del merda. Non c'è scherzare, Cruciani, con i camionisti non ci devi scherzare. Mo' hai fatto poco incazzare, eh? Che cazzo, camion del cazzo, camion di merda, su e giù, che cazzo significa? Che significa? Che noi siamo dei poracci sul camion? Tu non ti immagini manco il culo che ci facciamo, testa di cazzo. Sto incazzato nero, incazzato nero. Allora? Hai fatto la fine dei Toscani, hai fatto, la stessa cosa che ha fatto Toscani, su e giù col camion, camion del cazzo. Sì, state attento, Lucia, che i camionisti sono tutti scemi, io li conosco, eh. Sono tutti mezzi pazzi, eh. Quello viene là, viene, vai tranquillo. E se non viene, dagli il telefono mio che la vado a prendere io da Sabaglio, vado là, vado a Caserta, dove cavolo abito, ve lo porto io là in macchina, in via Monte Unto, lì. Dove cazzo state voi, lì con quella cazzo di radio, de Unta. Allora, l'amico camionista, caro Parenzo, adesso sfuggita non è di mano la situazione. Non è che posso essere. Basta un attimo e ti sfugge di mano. Inimicato anche i camionisti. Tu che dici amico del popolo, li hai presi in giro. Li hai ma presi no, in giro. Ce l'avevo con quel camionista ieri, Gennaro da Caserta. Quelli che sono quello di sinistra. Quello stronzo di Gennaro. Perché tu i camionisti richiama, di sinistra Gennaro, li richiama, attacchi. Sei uno quelli stronzo. Quelli sovranisti ti piacciono, questo è il tema vero. Dai. Questo è il tema vero. Ma vattene, ma io... fatto una scivolata pazzesca. Perché sono dei lavoratori incredibili i camionisti, allora, faticano, posso sudano. Dirti una cosa? Ma certo, assolutamente. Hanno, ma io ce l'avevo la con quello. Con le piaghe da decubito per tutto il tempo che stanno lì. Ma io lì ce l'avevo col camionista di ieri, camion. Col camionista hai di hai ieri. Hai detto una cosa molto brutta, sei scivolato, la scivolata. La famosa scivolata hai fatto. Converrebbe chiedere scusa ma alla chi? Categoria. Ma non c'è nessun attacco alla categoria, che dici? Dai. Hai ostentato il tuo stipendio, l'hai preso in giro queste persone che poi dici io sono uno di voi. E gli hai buttato in faccia la tua ricchezza. Ma quando mai? Questi sono, amici ascoltatori, i cosiddetti populisti sovranisti. Questa cosa qua, vi buttano in faccia la loro ricchezza e poi vi dicono io sono uno di voi. Ecco qua, è questa è la cosa. È incredibile come questa trasmissione questa sia cosa. L'unica trasmissione, sì, ripeto, sì, in cui quando uno è in difficoltà l'altro lo massacra. E il vecchio bastone e il can che affoga. I conduttori viene... si infamano a vicenda. Sì, assolutamente. Si infamano a vicenda, bastona si delegittima la vicenda. Il can che affoga, e uno direbbero. Dei conduttori vuole distruggere sì, la trasmissione in cui sta. Sì, esatto, cosa incredibile. Esattamente. E querela gli ascoltatori sì, della stessa. Autoquerela della stessa. Sì, sì, dove esattamente questo. È un che formato unico, te. Naturalmente. Dai, è un formato unico, evidente. Dai. Scusi, come sta prendendo lei Sanremo? troppo nazionale popolare, Freccero, non ma si è espresso naturalmente in questi... ci sono naturalmente delle innovazioni molto utili ma deboli naturalmente. Come deboli, dai, Benigni, il canto dell'amore, dai, dai, l'amore, i valori universali, il servizio pubblico. Naturalmente aveva fatto qualcosa di molto più shock. Naturalmente. Capito, però Sanremo, non, è, può non essere... mi sembra la TV verità. Naturalmente. No, non è la io, TV... ad esempio, avrei portato il tema del coronavirus naturalmente sì, dentro capito, l'Ariston, ma non soltanto a parole, blaterando naturalmente. Facendo una delle più grandi pandemie in diretta della storia, naturalmente. Ma come? Naturalmente. Provocando una pandemia. Naturalmente sarebbe stata naturalmente una grandissima occasione, naturalmente, per far capire davvero che cos'è naturalmente una pandemia. Tutti parlano di talk show. L'unico malato italiano, l'unico malato italiano l'avresti portato da portare lì, dai, ma senza la mascherina, dai. Cioè, l'unico la ospite realtà. Serio. L'unico ospite serio era il malato italiano, quello che si è ammalato. Naturalmente. Ma lei l'ha proposto? Lei l'ha proposto? Naturalmente mi hanno detto che era impossibile il codice di servizio, la RAI, il servizio pubblico. E io ho detto ci vuole naturalmente il cinismo del racconto televisivo, naturalmente. Cioè, naturalmente. Lei dallo Spallanzani avrebbe portato il malato italiano, l'unico che si è ammalato, l'avrebbe portato all'Ariston. No, io dico semplicemente che bisogna portare la realtà. La realtà, ho capito, però la realtà. Di il racconto, questa idea. Io dico, portiamo la realtà dentro questo teatro dei sentimenti del buonismo. Questo Benigni, dai, ancora con Benigni siamo, dai. Però ha parlato di sesso, Senti, lo faccio sentire, ha parlato di sesso, grazie per ciò. Ma vecchia, dai, sì, dai, dai. Bello, non fa ascolto, dai. Insomma, ascolto. 53%, dai. Io lo dico, non lo dico perché mi hanno cacciato, non lo dico mica per quello, dai, ma non funziona, dai, dai. I suoi testicoli sono rose stillanti mirra che sazia. Il suo sesso è un astuccio d'oro riempito di gemme. I suoi fianchi chiamano all'amplesso. Tutto in lui è desiderio. Dolcezza da succhiare. Eccolo, vieni mio diletto, andiamo fuori nei campi, passiamo la notte fra gli alberi di cipro, là ti darò le mie dolcezze e si apriranno squisiti tutti i miei frutti. Penetra mio diletto e sii simile a un daino, a un giovane cerbiatto delle colline. Prendimi, mio diletto, prendimi. Prendimi e mettimi come sigillo sul tuo cuore. Ho grande voglia di rannicchiarmi nella tua ombra. Ho capito, e però. Il sesso tuo su me, amore, e il frutto suo dolce nella mia bocca. Bellissimo. Cioè, praticamente è il Master Sean qui, il Master Sean di ieri sera. Cioè, praticamente è come il Master Sean di ieri sera. Non lo direi cioè, in posso dirti termini. La realtà è che mutatis mut, come si dice, no? Cioè, è la stessa mutatis cosa, è il Master mutandis. Sì, è il Master Sean, è il Master Sean, ragazzi. Beh, no, cioè, non lo direi così, ma assolutamente, è il loro Master Sean, ha parlato di pompini. Il master. Frutto nella sua bocca, dai, su, Masterchef. Ho capito la dolcezza mutatis, da succhiare. Mutatis, i miei frutti, mutandis. Ma è la stessa cosa, ragazzi. Davanti al pubblico si parla di queste cose qua. Per carità, sono citazioni, ovviamente. Beh, quello il è cantico dei cantici. Cantici, quello che vuoi, però di quello è, non è un'altra cosa. È come il grande racconto del Master Sean di ieri sera qui alla Zanzara. Il Master Sean, bellissimo, che frusta la sua slave, dai, penetra, mio diletto. Giancarlo dalla provincia di Latina. Così fuori dal contesto, mi fanno può notare, sembrare... mi fanno notare che c'è un titolo oggi su un quotidiano, il quotidiano nazionale, quotidiano che QN. È sempre da, da compulsare molto attentamente, ben fatto, che però è abbastanza incredibile. Frasi shock, Benetton getta Toscani dal ponte. Ti giuro, così. Frasi shock. Ma chi ha detto titolo? Ma titolo di quotidiano. Vero, ma come no? Ecco, ce l'ho davanti a me. Quotidiano nazionale. Ma hanno sbagliato. Un quotidiano di solito, diciamo, di solito abbastanza attento, sì, dici, abbastanza non è... molto attento, non è, non è libero. Non è il titolo di Libero, esatto, no, per ma, dire la ma stessa, libero, come ma, mai? No, perché Libero giustamente punta su queste robe qui. Frasi shock, Benetton getta Toscani dal ponte. Mi sembra un titolo piuttosto infelice, diciamo. Però... è bellissima la cosa. E è bello che forse è peggio di Toscani stesso. Perché Toscani gli è scappato una cosa, l'ha detta consapevolmente, quello che volete voi. Qui c'è un controllo di solito, no? Frasi shock, Benetton getta Toscani dal ponte. Mi sembra un titolo piuttosto infelice, però sai. Giancarlo, provincia di Latina, dai. No, per carità. Sì, poi... pronto. Dimmi, Giancarlo. Senti. Dimmi. Senti, Cruciani, fammi parlare 60 secondi. No, ma tu puoi parlare quello che vuoi. No, no, 60 secondi. Ah, no, anche di allora, più, perché? Innanzitutto io mi rivolgo ai vertici del Sole 24 Ore e di Radio 24. Ai vertici. Si devono dissociare dalle frasi, i giudizi indegni che ha espresso un loro conduttore. E che ho detto? Sono vergognosi. Ma cosa ho detto? Allora, cosa ho detto? Non lo sappiamo, ripetetelo, lo sanno detto? Tutti. Lo sanno cosa tutti, abbiamo detto? Sentito tutti. Ma cosa? Te lo dico io. Te lo dico io. Allora hai chiamato quattro stronzi, quelle persone che si impegnano quotidianamente nella lotta contro la violenza delle donne. No, non dire no, l'ha sentito tutta Italia. Vabbè, ho detto quindi non giustificarti. Stronzi. Sai qual è la differenza tra te e Toscani? Qual è? Toscani ha detto una frase indegna. Però Toscani, dall'alto della sua intelligenza, ha chiesto scusa e si è vergognato ma per quello cosa? Che ha detto. Ma qual è la frase? Tu non lo farai, sai perché? Perché la tua intelligenza è solo pari alla tua bellezza e siccome sei un cesso trai tu le conclusioni. Questo, amico ho detto mio. Tutto, non seguirò mai più Radio 24. Ma chi se ne frega? Finché non sarai rimosso. Ma vai a fare in culo. Sei allora, la vergogna degli allora, uomini. Giancarlo, stai tranquillo. Buonasera. Allora io non buonasera. Ho detto nulla che giustifichi l'hai detto, che l'hai giustifichi detto. Se c'hai le palle rimandale ma in onda. Cosa? Ma certo se che lo rimandi in onda. Ma cosa devo rimandare in onda? Io ho detto, vuoi che te lo ripeto? Giancarlo, stai zitto un attimo, adesso te lo dico io. Stai zitto. Stai zitto un attimo. Allora, la cosa fondamentale è questa. Io ho detto semplicemente che non ne posso più di tutta questa retorica, sulla violenza nei confronti delle donne. Perché ma non c'è va bene retorica, un giorno, però. Due giorni, tre giorni, basta a un certo punto. Soprattutto perché l'Italia non è un paese in cui c'è questa grandissima emergenza. Ma e l'abbiamo no? detto l'altro giorno anche. Ma no, l'ha detto Adinolfi. Chi cazzo è Adinolfi? No, Adinolfi è nulla, anche è lo solo zero. Un delitto, non è l'Istat anche Adinolfi. Solo un delitto è una cosa negativa. Questo è chiaro, ma no? creare una non sensibilità nazionale non, oltre, non uscire dal seminato. Ma stai zitto tu, hai detto quelle frasi, ma te ne devi scusare. Ma che di che cosa? Sei ancora un briciolo di uomo. Ma è una vita che le dico io. Ma no. È una vita che le dico. È una vita che le dico. Stai ricevendo un sacco di telefonate e messaggi. Ma chi se ne frega di quello l'hai che ricevi tu? Ma no, cosa? Non devi dire chi se ne frega. Ma cosa? Tu non sei il padre eterno. Ma chi ha detto che sei una trasmissione che ha un audience, la gente ti ascolta. Le parole si pesano. E allora? Non allora? Puoi avere quei giudizi, ti devi vergognare. Allora, amico mio, io li continuo a ripetere. Io non sono amico tuo, tanto per cominciare. Ma questo è il mio modo di dire. Guarda che posso alzare la voce qua più di te se voglio. Sto cercando di non scusarti. Sto cercando. Sono indignato per quello aspetta, che hai detto. Ma aspetta lì, stai fermo lì. Chiarisci. Penetra, mio diletto. La zanzara. Vittorio? Eccolo. Master. Ieri sera, vedendo un po' di Dritto e Rovescio, c'è stato un momento top in cui, quando Del Debbio ha fatto vedere Crux che si faceva massaggiare dalla cinese in studio, ha detto: purtroppo si vede anche Parenzo. Percepisco della diatriba tra i due. Parenzo, voglio una risposta. Dai, avanti tutta, Parenzo. Innanzitutto do atto al collega Cruciani che ha dimostrato una capacità superiore di affrontare il problema, perché durante la diretta si è fatto massaggiare da una signora cinese, quindi insomma ha dimostrato di essere, di non avere paura del contatto fisico con i cinesi, di essere l'uomo vero che è, e quindi io gli faccio i miei complimenti. Cosa c'è? Ah, ecco, si vede, sì, Cruciani mentre viene massaggiato. Sono delle, purtroppo poi si vede anche Parenzo, sono delle, cosa sta facendo in questo momento? Sono delle immagini che non avrei mai voluto vedere, ma però vabbè, in senso era un momento di relax. questa è l'unica trasmissione in cui si rimandano in onda. Ma non ho capito cosa ha fatto vedere, però cosa un si vedeva? Pezzo in cui io mi sì, no, mi ma io cosa c'entravo? Niente. C'era l'inquadratura tu nello studio a Roma. Ah, io stavo a Roma. Stavi a Roma ed eri vabbè, con, dai, gli occhi, con gli occhi perché come lo vabbè, dai. Così, tanto annunciamola così. Sì, dai. Querela perché così, per è stata lesa, è stata dileggiato il mio nome, è stato pronunziato. Solamente per essere il tuo nome all'interno di Dritto e Rovescio. Esattamente. Poi è stato pronunziato arbitrariamente, senza il mio consenso, il nome all'interno di un contenitore televisivo di Rete. Che non apprezzi, No, vi abbraccio fortissimo, l'amico del Allora, Dino. Eravamo con Giancarlo dalla provincia di Latina, che si è incazzato semplicemente perché, a modo mio, naturalmente... 50.000 euro di danni, dai. No, 50.000 no, euro di danni. Giancarlo, allora, ti posso spiegare il senso di quella roba? Giusto, no, è molto brutto quello che c'è, scherzi a parte. Puoi chiedere scusa, hai tempo per dire ho sbagliato, allora, Giancarlo, chiedo Giancarlo, scusa. Vorrei solo parlare con Parenzio. Ha ragione. 15 secondi. No, aspetta, Giancarlo, qua, Giancarlo che mi mi rispondesse Parenzo. No, ma fammi punto. Spiegare un attimo, no, Giancarlo. Tu non puoi rispondere. Ma non rompere i coglioni, tu non puoi rispondere, detto Giancarlo. No, mi fai spiegare che cos'è una donna? O mi ma hai toccato una donna che non sia una prostituta? Penso proprio di no. Ma questo è un cretino. Beh, questo ti porto in tribunale e ti levo anche l'ultimo pelo del buco del culo. Ma chi ci va in tribunale con te? Ma figurati, poi non faccio due passi. Allora, io ti posso dirti una cosa, Giancarlo. No, vorrei parlare con Parenzo. No, aspetta. Un attimo solo. Allora, la questione è molto semplice. Io non sopporto l'eccessiva retorica su qualsiasi cosa, su qualsiasi tema. Bravo. Oh, benissimo. Allora, su questo tema della violenza. Aspetta, mi fai finire o no? Su questo tema della violenza sulle donne si è fatta una retorica pazzesca, nulla in più. Aggiungo che nel nostro paese i dati dimostrano non basta mai. Questo è il tuo pensiero. Come il ricordo dell'olocausto, hai capito? L'olocausto, anche quello è retorica, parlarne sempre. Ma figuriamoci, bravo, che c'entra? Anche quello, ma che c'entra? Retorica, parlare ancora della violenza sulle donne. Ma cosa c'è? Ma questo è il mio ha pensiero. Ragione. Ma cosa vuol non dire? Basta ma qual è mai. Non basta mai. Nel caso bisognerebbe parlarne anche 20 ore al giorno, ha capito? Scusami, non è più e poi grave il fatto che non si è faccia più grave in un la violenza come Sanremo è importante. Non è più grave, non è più grave la ignobili. Sì, va bene. Persone ma chi? Che combattono Ma chi combattono? Mostrando che cosa? Mostrando il coso, fa con le armi che ha. Gli artisti allora, lo fanno con la loro popolarità. Ma era generico, dai, su. Come quando i calciatori scendono in campo e portano il segno di lutto. Ma no. Quelle persone che invece fanno un concerto e con i ricavi finanziano i centri antiviolenza. Ho detto quattro strozzi a quelli. Ma cosa c'è? Io mi sono rotti i coglioni. Ogni sera propongono una roba che non c'è nulla di nuovo. Finanziare i centri antiviolenza delle donne, quello è fondamentale. Vabbè, che devi dire a Parenzo, Giancarlo? Mi hai rotto i coglioni. Io vorrei dire a Parenzo solo questo. Purtroppo un po' mi ha deluso perché io, posto suo, mi sarei talmente dissociato da quello che ha detto Cruciani che avrei abbandonato la trasmissione. Io penso che sia i dirigenti che i vertici del avrebbero fatto una piega. Ma Giancarlo, ci siamo confrontati, perché punto e basta, non rompere i coglioni. Va bene, Dave da Blasco, ciao amico mio, vattene a fanculo. Ciao. Dave Blasco c'è qua. Dave Blasco. Pronto? Dave Blasco. Io sono Dave Blasco, questo dinastia romana. Cioè, chi sei, Dave? Chiede. Sono un lottatore di wrestling professionista. Beh, lottatore di 90, 130 kg. Lottatore di wrestling professionista, sei. Venga a Firenze quando facciamo dal vivo. Venga, signor Dave Blasco. Ma perché lo devi portare a Firenze? Non l'ho capito. Perché il circo ha bisogno di altri artisti nuovi. Non ci vado perché mi fa schifo. Perché come ti fa schifo? C'è bisogno di artisti nuovi nel circo. Ora apriamo tutto il filone del wrestling. Magnifico. Più pagliacce di te, non c'è nessuno, coglione. Disse il lottatore di wrestling. Disse il signor Dave Blasco. Il signor Dave Blasco. Io non sarei molto. Ma non me ne frega niente di Dave Blasco. Io abito a Roma e so anche tu abiti. Abiti a Testa Cavour, salame. No, veramente. Beh, adesso questo non è. Vabbè, comunque mettiamo. Questa è una minaccia. Per la tua gioia sono super fascista. Pure. pure. Certo. Ma lei non gliene va una giusta? Scusa, mi fanno schifo tutte le minoranze. Vabbè, però, e i miei idoli, idoli sono Mussolini, Giugelli e Carminati. Ma no, adesso questo, adesso forse questo Carmina... si può, in qualche modo si può segnalare. Scusami, la polizia, Blasco, però De Blasco. Segnala sto cazzo. No, fermo un attimo, fermola. Carminati, ora posso capire, uno dice Mussolini. Cioè, fa elogio dei criminali, questo è morto, cioè, come posso capire Mussolini? Questo no, fa elogio dei criminali. Morto, dice, c'è tanta gente qua che intende. Fa elogio dei Carminati. Okay, Carminati, se il tuo idolo è Carminati, quello è un criminale, amico mio. Cioè, un criminale esistente, vero? Io non scherzerei sui criminali, francamente. Non c'è nessuno. Il criminale di Palermo c'è nessuno. No, ma no, io fossi in questo qua non scherzerei sui criminali. Tu sei anche uno che fa wrestling a livello professionistico? Certo. Pure, cioè sei uno certo. Inserito nel circuito del wrestling, diciamo. Certo. E sei super fascista. Segnalato alle forze dell'ordine, però super sì. Fascista. Sei segnalato alle forze dell'ordine, dice Parenzo? Ovviamente no, sono incensurato. Per ora. È incensurato. Per ora. È incensurato. Per ora. Lavoro pure vicino al negozio brasiliano a Cipro. Ah, nel negozio del brasiliano a Cipro. E conosci anche il brasiliano, naturalmente. Prima o poi lo incontrerò. Ma vorrei sapere una cosa. Secondo te, con i signori immigrati, cosa bisognerebbe fare? Vogliamo chiedere questa cosa, Parenzo, no, al signor Dave non Blasco, credo che sia la persona titolata. Professionista. Non credo che sia la persona titolata. Io mi metterei davanti al porto con un bel lanciarazzi, boom boom, affondiamo tutto. Ma non ho capito bene se è, diciamo, la stessa cosa che dice la signora Meloni, cioè le barche vuote, blocco navale ed eventualmente affondamento no, di barconi anche vuoti. Viene, anche viene, sono merda. Oh, abbiamo detto tutto, De Parenzo, no, mi sembra se questo di poter è serio, dire. Va denunciato. Parenzo, per quello... No, ma io mica faccio il wrestling. Il wrestling non lo fa, naturalmente. Cioè io, però io posso sempre prendere... Io posso penso sempre sia, prendere penso la telefonata che hai però. Fatto e mandarla alla polizia. Questo posso farlo. No, vabbè, e, quindi cambiare la tua condizione da incensurato a indagato. Questo lo posso fare con grande gioia se vuoi. No, però no. Non se, è insisti, caso. Se insisti. Io in due minuti posso chiedere, segnalo questo 19:40 che è intervenuto e quindi mandare questo audio alla polizia. Poi loro faranno le loro verifiche. Ma vai a cagare, coglione. E quindi tu passi dalla condizione di incensurato qualcuno alla mi ha condizione detto, di indagato. Qualcuno mi ha detto, Gottardo dice, secondo me Dave Blasco è uno sbirro. Però... Non so sbirro. A proposito, questo è Gottardo. Mi hai bloccato su Instagram, solo sì, perché quello, avevo detto che quello può avevi essere. Preso dei vestiti di merda a Napoli che l'avevano rubati a un bidello. Sì, può essere. Merda. Però vedi che ho avuto ragione a bloccarti perché sei no, quella persona. Quindi, secondo me, siccome sei andato un po' oltre no, stasera. Sei democratico. Sì, no, io sono democratico con quelli che sono democratici. Io sono democratico con quelli che sono democratici. Con quelli che sono come te, non si può essere democratici. Ho detto soltanto che facevi schifo come no vestito, ma in quel punto, contesto neanche se ne frega quello che hai detto stasera e quell'altro coglione ci sono in Apado, un altro quello che hai detto essere. Stasera è un po' diverso invece vabbè Dave alla prossima l'elogio di Carminati ciao, forse ti costerà ciao. Come idolo Carminati amico mio io mi chiamo Massimo Carminati senti te lo so nome. Oh, c'è anche il Conte Dolphin. Conte! Manca solo la banda della Magliana. Come andiamo, punto. Conte? Pronte, buonasera. Bene. Come andiamo? Andiamo benissimo, a parte Venezia che è un po' trasandata. Perché che è successo? Toscani, che pensi di Toscani? Di Toscani sì. Io non è che mi è tanto simpatico, però devo dire una cosa. Forse non è stato capito il discorso che lui ha fatto. Cioè? Lui ha detto ecco che quando l'esigente. Uno un cliente investe in azioni non può pensare che cazzo se ne frega se casca un ponte o casca un aereo, lui investe. Dopo non è che abbia detto che il ponte è caduto o che se ne frega, ha detto questa cosa qui, tutti hanno interpretato una cosa diversa e lui non si è spiegato, non so neanche perché non si è spiegato, però c'è da dire una cosa, siccome sappiamo che Benetton è di sinistra, dall'alto l'hanno silurato Toscani perché non andava bene con le sardine e l'hanno silurato. Allora che è un complotto un po' strano. È un complotto, guarda che non sbaglio io. Mi non pare sbaglio. Una tesi un po' ardita. Vabbè, come dire. Poi che vuole dire? L'hanno silurato. Ma l'hanno a me non è simpatico Toscani perché non mi ha fatto. Però peggio il Benetton, dici tu. Hai capito, poi sappiamo benissimo. Allora ti dico un'altra cosa: dimmi. C'è un sito dove che parlano che le sardine sono dipendenti da chi? D- da Prodi. No, c'ha delle c'è un attività, sito. Danno c'è un sito. Allora, la conversazione è iniziata con c'è un, ma le c'è un sito. Sono tante, che c'è, c'è un sito. C'è un sito. E tu vai a dire chi è, cos'è, dov'è. Tu vai ai matti. Dico sì, perché tutto dicono. Cercate cosa? Cercate, dicono. Ho sentito che. Ma mi incazzo perché dite cose in libertà prive di qualunque certificazione e fondamento. E allora cosa dici? C'è un sito dove dicono che. Allora c'è un sito dove dicono che Dolfini è un coglione. C'è un sito. Ma va bene, allora dimmi perché Toscani è stato silurato. Ma cosa c'è? Ma non lo so. Perché ha detto una castronata l'azienda. Non l'ha detto. Ho capito, ormai la valanga era partita e nello shitstorm generale. Prende, investe in un'attività che se ne frega se ma pensa questo che va bene, un ponte, ma, casca un ma aereo. Questo va bene, abbiamo già discusso di questa roba. Io mi sono arrabbiato quando hai detto ho letto su un sito che mi è arrivato un sito, mi è arrivato peggio ancora, mi è arrivato un sito. Vabbè, Conte, ma tu leggi siti, hai chiamato, mi è arrivato. Hai chiamato per questo, Conte, oppure rincazzato? No, per no, io ho chiamato un'altra cosa, parente, mi è arrivato un sito che allora sta attento, lasciamo stare Toscani, lasciamo stare pagà. Non conta più un cazzo, se andai ora l'hanno silurato dall'alto, mandatelo via, vabbè, fuori dai coglioni. Boh, via, basta, finito. Allora, via, sapete insomma, vabbè, quando prendono gli orchestrali per 40 giorni di musica a Sanremo? Sì, poco, pochissimo. Poco, 1940 euro per 40 giorni. Sì. Cioè 50 euro al giorno. Uno strumento di un musicale costa da 5.000 a 30.000 euro. Ascoltami. Ascoltami, è loro che fanno cultura dello spettacolo. Io invito i musicisti a scioperare 10 minuti di silenzio degli strumenti, perché, e poi il compenso viene dato dopo un anno. Un anno viene dato il compenso. Questo non lo so. E avranno anche altre indennità, però sì, immagino, guarda, indennità di trasferta, avranno qualche soldino in più, sicuro. Immagino. E dunque che vuol dire che uno rispetto. Perciò io invito i musicisti a scioperare 5 minuti di silenzio, perché siccome che il paese della cultura è l'Italia, gli scrittori non prendono un cazzo, se vogliono stampare un libro devono pagare 4.000 euro. Dopo se va bene, vediamo, facciamo. Tu, Parenzo, lo sai benissimo te. Tu sei stato fortunato perché scrivi bene, scrivi delle cose e fai i tuoi libri, però i tuoi colleghi non prendono un cazzo, cioè, devono stampare un libro, devono stampare, devono pagare, cioè, con dici, loro. Tu dici nei confronti della cultura, ma che cazzo di cultura è questa qua? Cioè tu dici, se invece dei compensi, se li paragoniamo ai compensi delle grandi star di Sanremo. Bravo. Bravo, c'è un stronzo che viene, gli danno 100.000 euro. C'è una che si fa una foto perché è la moglie di questo, la moglie di altro. 20.000 vabbè, euro. Non c'entra, c'entra. Che si rompono i coglioni, che fanno loro. E che sanno. Ma le due cose non vanno paragonate. Cioè, non è dire guadagna troppo Benigni quello o quell'altro, perché quelli portano anche pubblicità. Ma ha fatto il 53%. Bisogna lottare perché euro. Quelli là prendano sì, di più, giusto. Gli orchestrali, non perché quegli altri prendano di meno. Giusto. Il tema io è che gli orchestrali devono prendere di più. No, guarda, che quelli. Parenzo, io voglio dire il una conte cosa. È incazzato, dai, il conte è incazzato. Io sono incazzato perché fare un conte, orchestrale conte. Che ha studiato 8 anni al conservatorio. Ma come parla il conte? Il conte parli non dicendo parolacce. Ma il conte sei è incazzato, conte. Ma che c'è? Ma sei un conte, parli in modo. Un monorchestrale non può prendere 50 euro hai ragione, al giorno. Hai ragione. Ecco, comprarsi i vestiti e stare lì a fare il pagliaccio e stare avanti perché presentano, vengono i divi e finisce alle 1 di notte e gli danno 50 euro al giorno. Ma che paese del cazzo è? Questo qua è un paese di morti da fame, cioè non mi ero capito, la cultura la fanno loro, sa, se si fermano a suonare è finito il festival, non basta, finito, non cade più nessuno. Sì, capito? Ciavano tutto qua, cioè, non c'è cazzo da fare, cioè, rubano pure lì, non c'è niente ma da fare. Ma cosa vuoi che rubano? Ma se tu vedi che il festival va avanti con cazzate, con robe, presenta uno, è il tennista, è il calciatore, è questo, è quell'altro. Ma festival, che cazzo di roba è? Ma cosa è? Ma cosa fai il direttore artistico del festival pure? Cioè, se il conte. Io non mi metterei a fare il direttore artistico del festival, ma non pretendo che sia il conte Dolfina a fare no, il direttore artistico del io, festival. Guarda, lo farei meglio. Sì, la cultura sì, gli avrei atto alla cultura. E poi tu sei scrittore, lo sai benissimo quando vengono pagati i tuoi colleghi. Quando ma lo so, hai ragione su questo. Che c'entra? Hai capito? Se devono fare un libro pagano 3.000 euro, forse va bene, lo stampiamo, non stampiamo. Oh, ma che cazzo di paese è di cultura? Che cazzo di paese è di cultura questo qua? Che è la culla della cultura italiana. Ma di chi? Di Michelangelo, dei tempi passati, quando conta più un cazzo a nessuno, uno studia al conservatorio 10 anni, ha uno strumento che costa 30.000, 40.000 euro e prendi 50 euro al giorno, vergognatevi! Ciao Conte, ciao. Ma perché sei ciao, ciao, buonasera. Ciao, ciao. Si incazza, allora. In questa vicenda di Toscani, però che io sequela di mostri, in questa vicenda di Toscani nascono come i mostri dei, presente il game, c'era un giochino da bambino, si chiama Space Invader, non sì, so se lo, no, se sì, lo certo. Ricordi, tu sei più vecchio di me quindi forse hai giocato di più. Dove ogni schema c'è sempre un mostro, che appaiono sempre più mostri, no? Cioè non è che li uccidi, ma aumentavano sempre di più, una roba incredibile. Allora io sentirei uno dei figli di Toscani, proverei a chiamarlo Rocco Toscani, chissà se prende le parti del padre, signor Oliviero Toscani. Rocco Toscani, credo che faccia il vino. Space Invaders. Pronto? Rocco? Sì? Ti rompo i coglioni, sono Cruciani, ciao. Ciao. Senti, ti posso chiedere che ne pensi del licenziamento di tuo padre? Se secondo te hanno fatto bene oppure tuo padre ha esagerato? No, non penso che abbia esagerato, non ha detto niente di male. Beh, questa volta lo difendo. Addirittura? Questa volta. Penso che non abbia, non abbia sbagliato. Beh, insomma, ha detto chi se... La frase sia stata tirata fuori male, voleva solo dire che non voleva parlare di quell'argomento lì. Poi è chiaro che... Non aspettavano altro che bastonarlo, per cui... Ma chi dici? Tutti quanti? Cioè i suoi nemici, dici? Sì. Cioè chi sarebbero i suoi nemici? Vabbè, quello certo è una persona molto divisiva, Oliviero, quindi è chiaro che si è tirato addosso qualunque tipo di odio. Però io la mia domanda era su Benetton. Però è uscita male quella frase, molto. La mia domanda era su Benetton, però. Cioè, secondo te hanno fatto bene a licenziarlo, sì o no? Penso che abbiano fatto male il modo in cui l'hanno fatto un po' lo stesso modo che l'hanno fatto la prima volta, cioè se ne sono voluti. Lui abbia sempre difeso quello che era il suo lavoro e l'azienda per cui lavorava. Loro però poi alla fine l'hanno difeso poco, questo sicuramente, però sai, ognuno fa quello che vuole. Cioè tu stai dicendo che l'hanno scaricato brutalmente, come si licenzia? Insomma, l'hanno usato un po' come capro espiatorio, quello sicuramente. Però la frase è brutta, cioè adesso guarda, io ho difeso tuo padre dal licenziamento perché secondo me è un'ipocrisia. Cioè, tuo padre è una persona, diciamo, che ha le sue opinioni, le dice in maniera molto chiara. Se volevano licenziarlo prima, avevano mille occasioni per farlo. In questo caso, siccome è una cosa che riguardava loro, i loro interessi, lo hanno licenziato. Questo è quello che penso io. Quello sicuramente hanno colto la palla al balzo. Però cosa fai? Non puoi andare a dire. Sì, la frase sicuramente era, la frase, era un po' infelice. Però ve lo dico conoscendolo. Cioè, sono il primo a dire che lo strozzerei ogni 2 minuti, però allo stesso tempo, conoscendolo, voleva parlare di altro, per cui, cioè tu dici, non voleva essere sprezzante nei confronti dei morti sul ponte, cioè, era un modo di tu stai dicendo che era un modo di dire, era come dire basta parlare di strada, no, ma non sono qua a parlare di questa strada del ponte, io sono qua a parlare di altre cose. Lui non lavora per un'azienda che per cui deve difendere la caduta del ponte e autostrade. Lui lavorava per un'azienda che faceva creatività e faceva, cioè, però bisogna dire una cosa, Rocco, ma questo l'ho capito, è un'interpretazione che c'è, a parte che non la utilizza più nemmeno lui questa interpretazione. La frase però è abbastanza chiara: a chi interessa che caschi un ponte? Cioè, è difficile equivocare su questa frase. Ieri ci ha chiamato uno dei parenti delle vittime, che ha perso 3 persone sotto il ponte, 3 persone, il fratello, la moglie del fratello e il bambino di 8 anni, e ha detto: a me delle sue scuse non me ne frega niente, la frase è chiara. Ma questa ha perfettamente ragione, questo io, figurati, quando l'ho sentito ho detto: è un cretino, cioè alla fine ha detto una frase da cretino, questo... Però anche a me farebbe girare i coglioni se qualcuno insulta una situazione dove ho sofferto. Questo è chiaro, ma ve lo posso dire io che lui questa frase non l'ha detta nel senso di dire chi se ne frega del ponte, chi se ne frega dell'argomento durante quella conversazione alla radio per cui è stato chiamato per un'altra cosa, e loro incalzavano su la questione sardine, Benetton, però comunque tu dici Benetton hanno, lo hanno usato come capro espiatorio, cioè lo hanno scaricato come si scarica una volta si diceva come si scarica una serba, no? Com'è che si dice? Come si licenzia? Hanno fatto un po', gli hanno scaricato tutta un po' la colpa. Chiaramente lui è uno che fa comunicazione, parla, chiacchiera, no, lo sappiamo. Anche da voi ha fatto casino, no? Mille volte, infatti, mille volte ha fatto casino e io dico che mille volte. Io ieri sera gli ho detto non farti chiamare da Cruciani, gli ho detto. Ah, sei tu che gliel'hai detto? Ah, fa culo, va. Ma come? Alla fine penso, guarda, a parte che lui è passato, veramente, lui è passato 2 ore prima che il ponte venisse giù, quel giorno lì. Veramente. E lui è uno di quelli che dice sempre la destra, i buzzurri, i fascisti, quelli che no, eccetera, certo. E poi se ne esce con questa frase. Tu capisci che è una follia, no? Cioè, nel senso, è uno di quelli che dice sempre la volgarità, la destra, i fascisti, i buzzurri, la destra che non ha cultura. No, eccetera. No, c'è un contrappasso terribile, effettivamente. Dai, c'è un contrappasso. Magari tu voti Salvini invece. Io? Non credo. Guarda, piuttosto di votare Salvini. Salvini no. Che mi fai? Dispiace. Piuttosto di votare Salvini. No, se fossimo gli ultimi due su un'isola e devo votare Salvini. Non lo voteresti mai. No, è brutto. No. Magari la Meloni, no. È tutto, ma neanche. Niente. Cioè, proprio Salvini no. Cioè, è un inno all'ignoranza. Lasciamo per no. Dai. Vabbè, comunque il proprio paese fare questa fine qua, però ho capito, però amico, se la gente lo vota questa volta devo difendere Oliviero, ha fatto una frase brutta ma lo assolvi, ma Oliviero papà non lo chiami papà, lo chiami Oliviero. Oliviero, perché non lo chiami papà? No? È più semplice perché poi quando si litiga comunque è una certa distanza, non è che comunque per questa cosa qui lo assolvi. Beh, lo assolvo perché so che non l'ha detto in quei termini. Bah. Ha detto una cagata, cioè sicuramente ha detto una cagata, sono cose che non vanno dette. Ho capito, dice che adesso sta bene, che si sente sollevato per essersi un po' liberato dai Benetton. È anche contraddittorio, un giorno dice che si scusa, un altro giorno dice che sta bene, non c'è problema. Vabbè, ti abbraccio, ciao. Questa farà parte della vecchiaia, non so cosa sia, però sì, sicuramente è un uomo che piace stare libero, però... Vabbè, ciao. Un cavallo pazzo va un po' lasciato galoppare, no? Ciao amico mio, ciao. Ciao, ciao, grazie. La zanzara. Eccomi ragazzi, questo video lo devo fare per forza perché non posso non farlo. Dedicato a due testicoli. Questo si chiama Longoni. Questo si chiama Longoni. Ciao Rocco. E come va rapata a sentire ste cose, ma la carne di Rattusi e poi andate a casa e ve la impugnate come gli animali. Parenzo, e come te la impugni, Parenzo? Ho fatto un sogno bellissimo, ho sognato Lady Muffin che squirtava addosso a Parenzo. Questo è buono. Come si permette questo sogno? Ho sognato. Questa è novità, questa è una grossa novità. Allora, Sarebbe un sogno, veramente, un sogno assoluto. Lady Muffin che squirta addosso a Parenzo, ragazzi. Che sogno, ragazzi. Che sogno. Sono come quei meme che ci sono ogni tanto che spuntano sul web. Sul tuo amato web. Sul tuo amato web. Vuoi sentire un po' di Spatalino? Beh, no. L'abbiamo saltato prima. No. L'abbiamo saltato. No. Partiamo da una cosa detta, non mi ricordo quando, ma non è importante. Si incazza perché nei posti di potere c'è solo gente di sinistra. Si è detto questo. Senti, Spatalino, signor Spatalino. Ve lo giuro davanti a Dio, sul mio onore, dovunque io vada, trovo esponenti di sinistra. Tum. Nel potere che conta ci sono loro. Mughini, c'è Mughini? Poi si incazza, poi si incazza. Chi era quel cretino di poc'anzi? Poi si incazza per la storia di 35 euro. Tu sai che la Lamorgese vuole riportare l'aiuto agli immigrati a 35 euro. È una notizia che abbiamo trascurato, ma che è molto importante. Non le cazzate che si dicono e i discorsi sulla violenza sulle donne. Per far sì eccetera, che ci eccetera. Sia un'assistenza. I 35 un'assistenza euro. Vera. Posso dirti una cosa sulla questione della violenza sulle donne? Adesso che mi hai fatto venire in mente una cosa. La cosa importante non sono gli appelli, non sono anche i discorsi, creare una sensibilità. No, la cosa tema, importante certo. sono i provvedimenti. Anche. La cosa importante sei è che quando la legge una sul donna femminicidio, ma no, certo, perché le norme già ci sono per condannare l'omicidio. Io sono per il fatto che se una donna chiama la polizia o chiama i centri di assistenza, poi questa persona qua deve essere seguita, certo. deve essere aiutata, invece non avviene. Ma non è vero. Non avviene. A questo serve finanziare quei centri. Bisogna dire grazie a quelle cantanti che gratis faranno questo concerto, Laura Pausini e tutte le altre, per finanziare Fiorella Mannoia eccetera, per finanziare i centri antiviolenza. Io sto dicendo che non è che ogni sera ci possono, capito, riammorbare con la stessa questione. Intanto ci sono tante persone che neppure sanno che cos'è un centro antiviolenza, e grazie a Sanremo lo sapranno. Grazie a Sanremo lo sapranno. A questo serve Sanremo, ma figuriamoci, a rendere popolare delle cose che magari la gente non conosce. Spatalone, vai. Sti quattro buffoni vigliacchi hanno il potere in mano, ma tu non puoi parlare con i ciechi, con i sordomuti, con i venduti, con i sacchetti a perdere, perché uno che non mi dà ragione su questa questione è un fariseo, è un falso. Dottoressa Lamorgese, lei è riuscita nel suo intento, l'aveva promesso. Tipico Veneto. Perché avete aumentato di nuovo la diaria giornaliera? Mi dovete dire perché? Dopo lo schifo, dopo lo scandalo delle cooperative. Adesso con 35 ritorniamo. Vergognatevi, mi fate pena. Signor Presidente, A chi? Ma era proprio necessario. Ma chi è? A chi si rivolge? Riportare la diaria a sti quattro sbandati che voi continuate a chiamare migranti e io dico dai, falsi profughi. Se non si offende, Presidente. Signor Spatalino, signor Spatalino, Francesco dalla provincia di Rimini, dai. Dimmi Francesco, dimmi. No, non sento niente, Francesco, non sento niente. Ho capito, amico mio, se non sento niente come posso fare, dai. Francesco. Dai. No, niente, Alberto da Roma, vai. Alberto da Roma. Ciao ragazzi, buonasera. Ciao Alberto, dimmi. Buonasera. Allora, io pratico il BDSM da anni. Sì. BDSM. Vuoi spiegare a Parenzo cosa significa? L'acronimo. Allora, pensa Parenzo, ci sto scrivendo anche una tesi di laurea che discuterò il 21 gennaio. Ottimo, il 21 febbraio. Ottimo. Di cosa tratta? Gli aspetti psicanalitici del BDSM. Vuoi spiegare a Parenzo in sintesi? È un acronimo che non conosco. Bondage sadomaso. Cioè, sono delle pratiche. Lei si sta per laureare in che cosa? In medicina? Psicologia. In psicologia. E quindi fa una tesi sul... Una tesi sul BDSM. Fra l'altro, Parenzo, mi ha stupito quello tuo atteggiamento di ieri, perché quello che lasci trasparire è che ha un'attività sessuale da primate. spero sia solo per esigenze di discrezione e di riservatezza, perché sì, no, sarete sì, veramente allarmati. Vabbè, ma uno no, può fare sesso come no, vuole, adesso può fare al di là della mia, di quel che faccio io a casa a mia. A lui non piace raccontare le proprie avventure sessuali. Questo è un tema, ma il secondo, cioè, non posso considerare dalla mia punto di vista normale il fatto che ci siano, che ci sia un padrone e una slave, dici, esatto, no? Sì, secondo me ieri Master Show ha detto una cosa molto Master molto Show prendere sul serio, cioè, Master Show molto... cos'è che ha detto? No, ha detto una cosa molto intelligente, che in realtà chi fa queste pratiche a un livello socioculturale. Ma no, ma non è questione di cultura. Non è detto, figuriamoci. Ma è una cosa trasversale. Ci sono persone che hanno laureati, diciamo, professionisti. Ma io detto una bestialità simile. Non mi interessa il livello di cultura che c'entra. Dico che Parenzo, abbi pazienza. Diciamo che chi ha un livello, secondo me, culturale elevato, c'ha anche delle gratificazioni sessuali più sviluppate. Il primate si accoppia in maniera molto rudimentale. Un livello culturale è molto più contemplativo. Io, cioè, per tu nella tua tesi, quanti anni hai, Alberto? Tu? Io 41, è la mia seconda laurea. Ah, la tua seconda laurea. Beh, quindi lei però pratica anche questo o no? Io pratico da anni, sì. Ah, che ruolo hai nel BDSM? Scusami, che ruolo hai? Io sono un master, ma guarda, considera rispetto a quello che ha detto ieri Sean. Il professor Sean. Sostanzialmente, in ogni masochista si nasconde un sadico e viceversa. Fra l'altro, una delle cose che sostengo, io ho affrontato molto il tema del BDSM nelle coppie. Sì, ma scusi, perché se uno non è né masochista né sadico, però mi scusi professore, se uno non è né masochista né sadico, sarà mica un matto, no? Non mi considero e non credo di essere, poi non lo so, ognuno avrà le sue patologie, ma io che non credo di essere né masochista né sadico e non penso di essere per questo un matto, perché in questa trasmissione chi non è questa roba qua diventa, capito? Cioè, se tu in questa trasmissione non sei masochista, matto, non ti fai pisciare addosso, sei un nazista, sembri, capito? Io in questo caso sì, sono diverso sicuramente, ma d'accordo, ditemi pure matto, ecco, allora io non sono né masochista, bravo. Posso mettere un punto a questa discussione? Voglio capire una cosa. Alberto ha 41 anni, sei fidanzato, sposato, cosa sei, Alberto? Sì, ho una compagna, fra l'altro, con cui conviviamo. Abbiamo avuto all'inizio una relazione BDSM, dopo la mia compagna ha switchato e abbiamo avuto addirittura anche una schiava. Poi noi di coppia. Ha switchato, che vuol dire? Scusami. Da slave è diventata mistress e abbiamo avuto una schiava di coppia. Cioè, avete avuto una schiava di coppia? Sì, assolutamente. Cioè, una persona che sostanzialmente. Una persona con cui entrambi in posizione atto praticamente. Ormai questo è il mio. Sai che la gente mi ferma per strada e vado e dice evviva, perché è un modo per dire, no? Ormai è diventato un modo in cui lo usa la gente, per fortuna. No, però voglio dire evviva, evviva. Per tenere alto il livello della discussione. Quindi la sua compagna, mi faccia capire perché è molto interessante. Era, la sua compagna praticava BDSM con lui. Fatemi capire. In posizione sub, sottomessa. Sottomessa a te. Solo a te. Tramite un percorso ha switchato ed è diventata mistress. Ovviamente con me si è creata un'alleanza ed abbiamo avuto poi un'alleanza. Come le trovate le schiave? Si è creata un'alleanza. Fondamentalmente un po' le schiave si annusano. Le schiave si annusano. Tramite contatti, tramite siti, come le trovate queste schiave? Ci sono dei siti dedicati, ma diciamo che un master che è un po' rifiuto, basta che va al bar, vede anche già dalla postura, dagli atteggiamenti. Cioè, tu vai al bar, incontri Parenzo e uno potrebbe immaginare che Marco della facoltà di non rispondere. Vediamo il suo fiuto quando funziona, evviva. Io conoscevo a Roma, potresti andare in un bar, avere il fiuto, incontri Parenzo e hai il fiuto di trasformarlo in uno vediamo. C'è tutta una lettura del non verbale da cui si capisce se una persona. Poi ci sono persone che nella vita. Una lettura del non verbale, del comportamento, della postura, da cui si possono capire tante cose di una persona. Comunque volevo dire una cosa molto interessante: vedere come, soprattutto nelle coppie, si pratichi il BDSM. Perché spesso la coppia che si avvicina a un master mette lei in posizione sub all'inizio, poi alla fine switcha. Diventa mistress. Nella tesi lei diventa mistress e l'uomo va in fase regressiva infantile e diventa poi lo schiavo del. Ma questo è successo anche a te? Che, Beh, sostanzialmente io con in passato, quando ho praticato BDSM con delle coppie, all'inizio la schiava della dinamica 3 era la donna, dopodiché si è creata un'alleanza con la donna che è fissato, e l'uomo è stato portato in fase regressiva, è diventato cioè l'uomo, il marito della donna o il compagno della donna. Sì. Ma in questo momento nella tua famiglia l'alleanza qual è? Cioè tra chi e chi? Tu e tua moglie? Adesso diciamo che con me, fra me e la mia compagna c'è un rapporto di alleanza paritetico e non praticiamo più il BDSM. Non praticate? Più il BDSM. E non avete più schiave? No, è un percorso, siamo arrivati a un livello di di sublimazione, per cui c'è un'alleanza, un rispetto, un rapporto che è assolutamente paritetico rispetto a come era prima. No, non ho capito. Cioè, oggi è paritetico. Era un rapporto prima era di... che non era paritetico. Certo. Cioè, non ho capito, non c'è più, non avete più schiave? No. Abbiamo smesso, abbiamo un rapporto molto normale. Siete liberi. Sì, la nostra trasgressione di oggi è essere normali. Bravi, evviva. Ho capito, ma che cosa hai trovato di strano nel discorso di Sean di ieri? Di Sean distingue tra un BDSM senza atti sessuali, diciamo con atti di sottomissione, guarda, perversione me, varia, violenza, diciamo tra virgolette, guarda, dolore, eccetera. Cruciani, che ognuno vive il BDSM a modo proprio. Io, per esempio, al di là delle relazioni, quando avevo solo esperienze di BDSM, non avevo mai rapporti sessuali. Cioè non c'era mai penetrazione, ma no, cioè... un master non può concedersi a una schiava, assolutamente no. Una mistress non andrebbe mai a letto con uno schiavo, perché non si può concedere. Beh, sì. Quindi quello chi è? Quel master lì che è un furbone, quello lì. No, ognuno lo vive a modo suo. Io dal mio punto di vista non andrei mai a letto con una schiava. È chiaro che se poi ho una relazione di BDSM che è un'altra cosa con la mia compagna, sì, e allora quella è una relazione, ma nel menage del gioco di ruolo BDSM, sì, non puoi mai concederti a una schiava come una mistress, non si concederebbe. Ma oggi quando hai smesso, che cosa? Questo continua con BDFM, a me viene in mente PFM, la premiata forneria mascherina. Oggi tu hai trasformato praticamente in una tesi di laurea la tua vita, un pezzo della tua vita. Bravo, questa è la realtà. Sicuramente c'è molto di esperienza personale, sì, assolutamente. Gliel'ha detto al professore con cui fa il suo relatore, con cui fa la tesi, gliel'ha detto? Ma che è la sua vita. Sicuramente l'avrà intuito, c'è anche una conclusione abbastanza esplicita. Vabbè, Alberto, ciao, ti saluto, ciao. La Zanzara. Chi vende droga deve marcire in galera per anni. Chi vende droga deve marcire in galera per anni. Ma che cazzo di roba mi avete dato, brutti stronzi? Mi sta girando la testa, vedo lampi negli occhi. Ma che roba era quella? Roba tagliata male, per caso? Zanzare marijuana, oh oh oh. Zanzare marijuana, oh oh oh. Zanzare marijuana, oh oh oh. Sì! Zanzare marijuana, oh oh. Voi propagandate la droga! Carico, sei grandissimo. Sì, sono due settimane che sono carico. No. Master. Ciao Cruciani, ho un ristorante negli Stati Uniti e ho una persona in cucina messicana che d'italiano l'ha imparato solo tramite film porno italiani e mi ha confessato che gli piace la figa pelosa e quindi mi sei venuto in mente. Ti gusta con o no pelo? Mi gusta la panoccia con pelo. La panoccia col pelo, sì. Sempre? Sì, sempre con pelo. Allora ragazzi, in collegamento con noi, credo da Bologna, un ex grandissimo divo del porno italiano che domani farà uno spettacolo a Milano. Mancava. Beh, il grande Franco Trentalance. Buonasera Franco, come stai? Ciao, buonasera, ciao Giuseppe, ciao Parenzo, in buona forma, sì. Buonasera, allora, direttore, buonasera. Domani farà un grande monologo sul sesso, sì. Il sesso e la ricerca della felicità. Vedi che stasera alziamo il livello, caro Parenzo, sì. La realtà. Adesso vediamo. A Milano in un teatro che si chiama Che pensi mi, domani sera. Domani sì, sera. È un teatro, diciamo, ma è un testo scritto insieme a Sergio Spaccavento, che è un autore di fama notevole. Perché pensi, senti, mi sono andato Franco, sì? Quanto tempo è? Ricordamelo un po' che non fai più il porno. Sono 3 anni precisi, vabbè, 2 e mezzo, due e mezzo. Ha smesso, ha rimesso la lancia della fodera, come si dice. Nella... Sì, ah, sì, ma mi veniva in mente un'idea, forse ne avete già parlato, ma dimmi. Tra chi preferisce la patata col pelo o senza pelo, potrebbe essere delle grandi, dei macro temi come vegano, carnivoro, destra, sinistra. Assolutamente, ma noi un distinguo importante. Ma stai scherzando? Ma già per purtroppo noi... è un terreno praticato. Per già noi, per noi è una sfida quasi filosofica, caro Franco. Cioè, già noi purtroppo distinguiamo le persone, io almeno le distingo tra chi apprezza la figa pelosa e chi invece il petto di pollo, cioè esatto, la figa c'è rasata. Anche il prato di Wimbledon nel sì, mezzo. Sì, c'è anche una variante, eccetera. Però alla fine sono varianti, piccole varianti. Alla fine la grande divisione intellettuale, la grande divisione filosofica è tra le persone che non fanno nessuna distinzione, dunque va bene anche quella per onnivori. Gli onnivori possiamo distinguere, tu lo ne sai più di me. Gli onnivori non me ne frega un cazzo, pelosa, non pelosa, sì, eccetera. Sì. Chi apprezza di più il pelo, chi vuole anche un minimo di, no, un minimo di pelo, però non troppo. Evviva, e poi evviva quelli che la vogliono completamente pelata. Io già ti ho fatto 1000 volte questa domanda, te la rifaccio ancora. Non so a quale categoria tu appartieni. O se io sono beh, intanto insomma, chi non è un ragazzino ha vissuto tutte queste epoche, no? Quindi sì. Ha dovuto gioco forza vivere tutte le epoche. Tu quanti anni hai? Cioè 52? Quanti 50, ce sì, quindi 50. Tutta l'era geologica del pelo. Sì. Ma io sono passato al petto di pollo per una cosa pratica, perché adesso senza essere volgari, no, anche essendo volgari, sì, sono passato. I fili, chiamiamoli così, con l'umidità diventano tipo dei fili di seta. Mamma, se uno va su e giù per un tempo dignitoso, non per un minuto, questi fili di seta tendono a lesionare, a fare delle micro lesioni sul glande. Vabbè, ma questo qua, scusami, però adesso questo ti succedeva quando facevi l'attore, diciamo. No, anche in privato, allucinante. Cioè, allucinante. Molto, addirittura rischia di segnarti, di arrossarti il glande. Ma veramente questo qua, cioè a te è successo? A me non mi è mai capitato, adesso, ma sinceramente. No, sì. È come se tu fai su e giù e c'hai questi fili come delle bave da pesca piccoline. Cioè addirittura mamma che ti prende zac, mia, capito? Come nella specie di ami, tac, zac. Allora Parenzo che sì. Allora invece vorrei, poi torniamo sulla vicenda del porno, anzi no, affrontiamola subito. Come si sta a 2 anni e mezzo di distanza? Domanda già fatta che ti hanno già fatto 40 volte. Cioè come no, si bene, sta? Bene. No, come no, si bene, sta? Bene. Cioè stai tranquillo? Cioè sono un sacco di persone che insomma, dopo aver fatto per 20 anni una roba, uno dice cazzo, ha un colpo, no? Cioè come si sta? Innanzitutto si scopa di più, si scopa di meno, come si sta? No, ma in realtà io mi sono un po' fregato con le mie mani, perché pensavo di avere una sorta di pensione dorata. Sì. E invece, come sapete, scrivendo libri, facendo il coach, live dappertutto, alla fine lavoro quasi più di prima. Ma ho capito, non hai messo niente da parte, non ho capito. Sì, però facevo 2 conti per vivere di rendita, ci vuole 1 milione di euro per me e io non ci sono ancora. Non ci sei arrivato. Cioè, per vivere di rendita dovevi accumulare 1 milione di euro. Cioè, tu mi stai dicendo, nonostante 20 anni di porno, non hai fatto manco 1 milione di euro. Ma come cazzo hai fatto a non fare 1 milione di euro? Hai capito? Cioè, o l'hai spesi tutti, tutti, beh, voglio dire, non è che ti danno 10.000 euro a scena. Cioè, tu mi stai dicendo che hai messo da parte mezzo milione, diciamo la verità. Hai messo da parte in tutta la vicenda del porno. Quando hai finito, con quanti soldi sei rimasto? Adesso non è che voglio farmi i cazzi tuoi, però quasi. Oddio, non so, poi ho comprato anche qualche appartamento, non lo so, però insomma. Però in diciamo banca non avevi a 1 milione di euro in 20 anni non ci si arriva neanche lontanamente. Non ci si arriva a 1 milione di euro. Dovendo nel frattempo vivere, però, non è che vivi in una bolla. No, certo. Tra l'altro, se non ci sei arrivato tu a 1 milione, pensa le tante persone. Non ci si arriva. Ma sai, è un po' nell'immaginario collettivo si pensa che. Ma io facevo sempre un esempio. Un film, adesso i film con la trama che Parenzo ama e del quale sì, le trame dei famosi film porno, certo, esatto. Le trame dei famosi film porno. Sì. No? Esatto. Considera che un film intero, cioè con 5 scene di sesso, con un po' di location, con un po' di trama, eccetera, eccetera, durata all'epoca duravano 100 minuti, sì, costava finito, tutto finito, sì, tra i 20 e 25 mila euro, diciamo un film di serie A. Sì, sì. Se tutto un film con attori, attrici, produttore, regista, cameraman, fotografo. Tu dici un attore, anche uno degli attori principali, bravo, quanto bravo. Può prendere? Può se prendere... tutto costa 20 mila, quanto potrà andare 10 mila euro un attore, ma neanche 5 mila? Ne andranno 2 mila, insomma. Ma neanche i viaggi, gli hotel, i pranzi, le cene. Dunque, se tu infatti, dovessi dare un consiglio. Il porno ha sempre lavorato sulla quantità. Per questo motivo, perché dunque logora, poco, dunque devi... logora. È un po' logora, sì, logora. Cioè logora, il pisello in che condizioni sta il tuo? È logorato? No, invece tu lo sai che è usurante mentalmente. Poi adesso meno, perché adesso si usano più le punture, ma negli anni certo, d'oro certo. Punture c'era poche. Un infortunio, sì. Dunque il tuo sta in condizioni buone, diciamo. È uscito fuori sì. Dopo 20 anni in condizioni buone. Evviva, non mi hai risposto sul fatto che si scopa di più o di meno senza porno? Beh, di meno per forza di cose, sì, di meno. Però dico è meglio. Cioè le gangbang non le fai più, cioè le cose strane con più donne, eccetera, non le fai più. Cioè non ti capita. Ecco, questa è una cosa. Se lo faccio con due donne, ogni tanto capita. Capita così. Non essendo professioniste, devi fare proprio la regia. Cioè mettiti così, girati di lato, intanto la fai questo, fai quest'altro. Certo, per forza. E diventa estenuante. Cioè, devi fare un po' diciamo, il direttore d'orchestra, diciamo. Problemi, però nel frattempo devi tenere il fagiano in attività, quindi è un po' complicato. Sono problemi enormi, effettivamente. Senti Franco, ma il sesso è la ricerca della felicità. In un minuto mi puoi fare una roba che cioè perché magari sentirti in teatro un assaggio del sesso e della ricerca della felicità. Te lo sei preparato o no? Ma io parto dalla semplice considerazione che il sesso è un'attività altamente democratica perché potenzialmente è alla portata di tutti. Vero? Però pur essendo altamente democratica, per qualcuno è fonte di gioia e appagamento, per altri di frustrazione e insoddisfazione. Mercù, il caso di Mercù, ad esempio. Bisognerebbe essere sereni rispetto al sesso, perché io vi chiedo, ho capito. Sappiamo tutti ballare? Sì. No. No. Sappiamo tutti cantare? No. No. Sappiamo tutti guidare la macchina? No. Perché sapremo tutti far bene sesso? No, questo certo, se uno se ne fa una rabbia. Essendo democratico tutti si sentono un po' esperti, no? E invece e quindi la vivono male, perché si sentono esperti, ma non hanno magari la preparazione giusta. Cioè vivono male le defiance, cioè vivono male, esatto. Vivono male. Se uno sta sereno e pensa che non tutti giochiamo a tennis come Federer o capito, però vai a dire a chi non gli tira, a chi ce l'ha piccolo, a chi gli dicono. Vabbè, adesso cioè, non parlare di Mercù in questo modo, dai, non è giusto. Ma se tu hai grandi aspettative su di te e non prendi coscienza di quelli che sono i tuoi reali. Il tuo reale potenziale, ma questo mica solo nel sesso. No, appunto dico. La vivi male, se invece stai sereno. E fai del tuo meglio con gli strumenti che hai, cioè qualche volta ci si può anche accontentare, tu dici di non essere particolarmente performanti, cioè bisogna capire dove si può arrivare. Mito che tutti dobbiamo essere dei Superman o delle Wonder Senti, Woman. Ma il porno fa male ai ragazzi, cioè, c'è Rocco, come sai, lo dice più volte, il porno può fare male ai ragazzi. Ma secondo me fa male in una cosa che soprattutto da ragazzino, se tu ti abiti a seguire molto porno, essendo molto specializzato, no? Tu nel tuo immaginario, che si traduce in un video, puoi realizzare qualsiasi fantasia di tutto. Sì. Categorie che già anni fa non esistevano. Qualunque tipo di voglio una che mi faccia una sega con la mano sinistra e le unghie smaltate di verde, la trovi. Se uno si abita a soddisfare tutte le proprie fantasie. Sì. A livello visivo, quando poi si confronta con la realtà, non è esattamente così. Dunque può fare male da che punto di vista? Qualcuno dice la pornodipendenza, si può diventare dipendenti. No, c'è il rischio che poi nella vita reale, quando le cose non vanno come sei abituato a vedere, puoi avere un contraccolpo, cioè, ma loro non è così, le donne sono così, gli uomini sono così. Senti, ma oggi per te il sesso anale che cos'è? Per un certo periodo nel porno, un certo periodo nel porno era diventato, come dire, una cosa di cui non si poteva fare a meno il sesso anale, no? Cioè era ancora, la cosa ancora è così. Oggi lo pratichi ancora con la stessa forza, con la stessa determinazione, con gli stessi occhi spiritati o no? Beh, è diventato un po' più pop, l'anale è un po' più pop, non è più una cosa. Ma ti capita che ti dicono di no? Non è un upgrade così. Ti capita che ti dicano di no, per esempio, stupendo, no? Dopo che tu lo facevi quotidianamente su un set è un no molto elastico, spesso dovuto a dei piccoli traumi. precedenti con però qualcuno che ha provato in modo maldestro. Però succede che ti dicono di no, no, non lo faccio, no, ho paura, no, non l'ho mai fatto. Sì, ti succede? Sì, all'inizio sì, poi però c'è il rimedio 30 lance e quindi dopo. Senti, adesso ti chiedo una cosa. No, d'accordo, finisco l'argomento. Uno dei motivi per cui nel porno si cominciò a tagliare il pelo è perché i cespugli fine anni 70-80 non facevano vedere. Non si capiva bene in che canale era la penetrazione. E quindi si è depilato principalmente per capire dove era la penetrazione. Se addirittura? Addirittura. Sì. Vi ricordate i peli di quei cespugli? Ah, come no? Sì, cioè non si distingueva l'immagine, dice. Dunque, si è cominciato a depilare per avere chiaro dov'è che c'era la penetrazione. Bravo, bravo. La grande storia, le grandi storie del porno. Senti, ma tu nella vicenda Felicitas Rocco, cioè, ti schieri o no? Cioè, chi ha ragione? Ma chi ha sbagliato? No. Chi ha sbagliato secondo te? Non farmi schierare perché sono fatti loro. Cioè, Felicitas è stato poco rispettoso nei confronti di Rocco, secondo te? Che è una realtà. Un affabulatore. Beh, insomma, un minimo di rispetto alla carriera ci vorrebbe. Poi però sono dinamiche loro e non ci vuoi entrare. Che si divertono loro. Però non puoi dire vecchio a uno. Non è che gli puoi dire vecchio pieno di Viagra, questa roba qua, o no? Ma vabbè, un po' di eleganza non guasterebbe. Però giustamente uno cerca di far valere le sue idee. Senti, ma sai, Parenzo, che lo sai come lo chiamo Giuseppe, il tuo socio? È l'uomo resiliente per eccellenza. L'uomo resiliente. Perché? C'era Revenant con DiCaprio, questo è The Resiliente con Non voglio sapere. Senti, perché. No, ma il sesso ascellare, questa stronzata del sesso ascellare, ne abbiamo parlato anche con Salieri. Cioè, il sesso ascellare è una cazzata che vi è stata tirata fuori dalla comunicazione adesso? Oppure, cioè, oppure lo praticavate voi? Cioè, quella roba ma di va, me. No, no, ma c'era il sesso intercosciale, ma questo come intercosciale? Che era intercosciale? Cioè, è che lo mettevi tra le cosce quando non potevi fare di più. Ah, vabbè, ho capito. Per cui è una cazzata questa cosa qua. Ma una cazzata, ma è tramontata persino la spagnola, che era un grande must. Ma le proposte indecenti oggi ne ricevi? C'è gente che vuole stare con te, coppie, cose, cioè proposte? Sì, donne sì, coppie sì, e ho avuto un'impennata rispetto ai gay e non so bene perché, però è così. Ma non ti concedi mai? Cioè, non è che non ti concedi mai? Io dico che nella mia carriera ho visto tanti di quei piselli e non sotto la doccia, li ho visti in azione, li ho anche sfiorati perché quando però no, con, non no, che se avessi avuto un'attrazione credo me ne sarei no, però voglio dire, quindi le proposte indecenti, c'è qualcuno che ti offre del denaro? Sì, però più che altro mi mandano la foto del loro pisello e dicono 30 lance, com'è il mio pisello? Dico, No, ma voglio dire, le coppie che ti offrono denaro per fare serate, cioè ce ne saranno pure, no? Però sì, sì, sì, ma non tantissime, però ce n'è. Non accetti? No, perché non ti va di fare interfacciarmi con l'uomo della coppia, quindi non ami. Certo. No, un abbraccio, a presto. No. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao Franco, abbraccio. Ciao. Ciao, ciao. La Zanzara. Oh, eccoci. Boia, sarà buono l'istice, bellino, a me mi garba quando lo spello che c'è tutte le manine, sembra un figliolo. Lo levi, lo cosci o in umido, come ti pare a te, ma è divino. Ragazzi, c'è un altro orientamento sessuale che voi non avete ancora indagato e di cui io sono il principale esponente. Questa cosa interesserà soprattutto Parenzo. Parlo di quelli che si arrapano da morire con la voce di Lores da Vicenza. Mamma mia, che voce che c'ha Lores da Vicenza, che voce. Io fossi in te Crux, un salto ce lo farei. Intanto giratele pure il numero mio, tanto sta sempre sola con la sorella, mi raccomando, avanti tutta. Oh, poi c'è sempre il genio. Aia, ste cose. Che è successo? Barisoni gay. Ma guardi che non è un'offesa. Ma cambia offesa. Ma perché? Perché deve essere un'offesa? Mamma mia, che sembra essere a scuola. Lei ancora va a scrivere sui bagni, sui muri dei bagni. Guardi che non si può scrivere sui muri dei bagni. Stia attento. Torna in classe che le conviene. Barisoni gay. Ma c'è Barisoni? Barisoni gay. Zanzarizzazione di Barisoni, continua zanzarizzazione barisoniana. No, ma se voi isolate solo quella frase, che lui sembra veramente che lo sia, che non è un insulto come giustamente il direttorissimo. Barisoni gay. Ma no, ecco, se fate così create una fake news. È un gioco, mamma mia. E che sei diventato? Sei diventato un femminista, del terzo millennio. Come i fascisti del terzo millennio. Ci sono i femministi del terzo millennio. Tagliuzzate le dichiarazioni. Dichiarazioni, le tagliuzzate, le mettete in giro e poi salta fuori che Marco da Napoli, comunque, posso dire invece, femminista del terzo millennio. Femminista del terzo millennio. Comunque, fammi dire una ormai cosa, non si può dire siamo... una. Sei una bella figa. Ma non dire sei una bella, una ma gran troia. Ma che è modo stupendo di dire, che strada. Una donna dovrebbe essere onorata. Se ma tu non dire gli dici scemenze, sei una gran ma troia. Che volgarità, ma glielo dirai in privato se le piace. Allora, che è in privato, ma non è certo, che se vedi una per strada glielo dici. Ti prende una sberla, se no. Comunque, fammi dire una cosa. Fammi dire una cosa importante senza interrompermi in 40 secondi. Tu non sai chi era il dottor Li Wenliang? Ma sì, non quello lo sai. Che è morto, dai. Bravo. Su che palle. Quello cambierà il volto della Cina. Ma hai rotto i coglioni. Questo eroe, con queste robe qui, eroe, sì, con cambierà il volto della Cina. Senti, tu veramente sei interessa. Abituato sai alle perché? Puttanate che ti propinano ogni giorno. Ma nessuno mi propina niente, questo le lo dico io. Le puttanate che ti te propinano ogni giorno. Non ha scritto ancora nessuno, e te lo dico. Ma non l'ha questo scritto qui nessuno, ha un valore. No, nessuno ha detto questo qui. Cambierà il volto della Cina perché? Perché questo medico era stato il primo a denunciare la nascita del coronavirus. Tutte cose. Perfetto. È stato incarcerato assieme ad altri 7 medici. Lo sappiamo, cosa vuoi? E poi è stato liberato. E allora? Ora la dittatura cinese non riuscirà a fermare l'impatto che la sua notizia tu? Data te lo ma dico che io ma che sai tu conosco chi il paese Nostradamus. Conosco il non paese non sei mai stato in Cina in vita tua conosco il paese ho non letto sei mai delle stato ho in Cina letto in vita delle tua. Questo purtroppo è vero ma Marco ho letto delle cose dai. Sulla Cina questo diventerà un momento fondamentale di grande cambiamento per la Cina. Volevo darti questa suggestione, non l'hai colta. No, torniamo colta, a parlare di cazzi. Allora buonasera non lo so prego buonasera. Chi c'è? Una dominatrice? Chi è che suona? Un citofono e il campanello di Salvini? Barisoni gay. Ma non è vero, ma è una. Marco da Napoli. Dai, messo così sembra una diffamazione. Perché Marco da Napoli. Ma non perché sia un insulto il gay, ma perché dai. Attribuisce una qualità. Marco. Oh, dai. Cruciani. Dimmi. In onda. Dimmi. Ciao, Cruciani, buonasera. Senti, io volevo intervenire nonostante. Insomma, tu non mi sia particolarmente simpatico, però stranamente sono incredibilmente d'accordo con te. La retorica sulle donne, sulla violenza sulle donne. Ma ragazzi, bisogna stare ma non attenti. C'è nessuna retorica. Io non sopporto questo è l'errore. Bastava. Avete voluto fare della cosa di Lula Gebreal invece di fare la cosa sulla violenza nei confronti delle donne nell'Islam, che è cosa molto più grave. Avete voluto fare la cosa che sulla però... violenza sulle donne in generale. Va benissimo. Però poi basta, ragazzi. Non è che può diventare il Festival di Sanremo, il Festival di Sanremo in cui ogni giorno c'è quello che ma si il porta filo la conduttore fascia, è fondamentale. La fascia nera è in segno di lutto. Piero Pelù. Ma perché vi dà così fastidio? Ma non mi dà fastidio. Si parla di una cosa posso concreta, criticare questa roba? Fastidio. La posso criticare o ma perché la critichi? Ma la per quale perché, motivo? Ma perché è una cosa che fa del bene? Retorica, no? È una cosa che fa del bene. Va bene, Marco. Ok, dai. Posso continuare? Perché non si parla abbastanza della violenza sui uomini? Ma quello c'è anche volendo certo, ancora con questa stupidaggine ma sì esiste anche l'uomo che morde il cane esisterà l'uomo che morde il cane infatti fa notizia l'uomo che morde il cane ma che vuol dire allora Marco non ho capito che vuoi dire non hai capito tu la metafora invece perché purtroppo sei limitato gli uomini, tanti uomini sono fatti oggetto di violenza dalle donne che Della vabbè, ciao Marco, lo sento, sì, ma no, ma ho capito, ragazzi, la violenza viene fatta nei confronti dei padri separati, non c'è dubbio. La violenza fisica è certamente largamente inferiore nei confronti, largamente inferiore nei confronti rispetto alla violenza sulle donne, non c'è dubbio, per mille motivi che non stiamo qui ad elencare. Detto questo, ripeto ancora una volta, ripeto, è il cane, ripeto, che morde, è l'uomo che morde il cane. I casi di femminicidio in Italia sono molto più bassi rispetto, ma meno male, ma che ma vuol certo, dire? Siete contenti invece ogni giorno per non parlarne, non è un buon motivo per non parlarne. I'm a vampire. Oh, io ho voglia di risentire quel deficiente di Vassallo, signor Vassallo, via, l'animalista Vassallo. Tutto, italiani! No, via, no, che chiudo, non chiudo, si chiude un tutto, cazzo qua, non si chiude un cazzo. Trasmissione. Tanto stasera non c'è niente a Sanremo, non rompere no, i coglioni. Come no? Vassallo, Vassallo, Vassallo, c'è l'animalista Achille Vassallo Lauro, che fa il tifo per il coronavirus, indignati per vota questa roba Achille qua. Lauro, indignati, ma chi se ne frega di votare? Vota Achille Lauro, ma chi se ne frega di Achille Lauro? O i pinguini. Pronto? Vassallo? Sì, chi è? Sono Cruciani, ma che cazzo fai? Ciao Cruciani, come stai? Ma che ti sei impazzito? Sto bene, ti sei impazzito? Perché? Che è successo? Ma è scritto coronavirus, non ti fermare. Oh, no, ma hai visto, si bastardi di Facebook, mi hanno tolto la pagina. E ti credo. No, beh, adesso, la pagina tolta, la pagina tolta non lo so chi se ne frega, ma il punto è sì, perché hanno segnalato sto posto come certo, istigazione alla violenza. L'avrei segnalato violenza? Anch'io, certo, giusto. Ma no, ma quella non è violenza, quella si chiama controllo demografico. Non ho capito, cioè secondo te tu hai piacere, per il fatto che il coronavirus magari si estende e ammazza tante persone? Ammazziamo una marea di animali ogni giorno e perché l'uomo, allora non, visto che dicono che l'uomo fa parte della natura, aspetta. Allora anche l'uomo deve far parte della selezione, cioè noi stiamo praticamente in rapporto di crescita, è muore una persona ogni secondo e ne nascono tre a livello mondiale. Dove vogliamo andare? Diciamo la verità, sei contento se il coronavirus ammazza un po' di gente? Beh, dipende, dai, se potessi scegliere lo indirizzerei su delle categorie tipo? Particolari. Cioè, tipo, mamma cioè, mia, cioè, che cosa mamma speri? Dai, iniziamo dai pedofili, dagli stupratori, dagli assassini. Poi? Dai, cioè, da, Allora, gli assassini per te sono i mangiatori di carne, per cui diciamo che la categoria è molto ampia, diciamo, no? Beh, è molto ampia. Allora, dai, i cacciatori, diciamo, non voglio... i cacciatori, beh, mettiamoli in mezzo. I cacciatori uccidono o no? E dunque mettiamoli in mezzo. Speriamo che, il coronavirus prenda subito i cacciatori. La legge del taglione, Cruciani, tu non fare quello che non vuoi che sia fatto a te. Tu vorresti stare in una gabbia ad aspettare. Vassallo, cioè la follia è che tu hai scritto coronavirus, non ti fermare. Cioè, coronavirus, non ti fermare. Se esiste un Dio, spero che ripulisca un po' di questo mondo di merda. Amico mio, sei pazzo. Ma vergognati. Cruciani, ma tu hai figli, mi pare, giusto? Hai una certo, figlia. Una figlia, ecco, che c'entra? Ma tu non saresti contento comunque che tua figlia viva in un mondo di armonia, tranquillità. No, guarda, se c'è un mondo in cui sei tu a dettare le regole, francamente sono molto preoccupato. Di armonia, ma io non voglio dettare le regole. Ma che c'entra l'armonia? Ma io sto bene in questo mondo qui, ma cosa c'entra? Ascolta, Cruciani, l'essere umano non fa parte di quella che è la selezione naturale, perché non è giusto. Almeno controlliamo la nostra demografia, non lo vogliono fare. Quello è un virus che ammazza la gente casualmente, non è che uccide quelli che dici tu, i pedofili, eccetera. Tu stai dicendo che so, poi comunque. Ma io sono incazzato con tanta gente, perché la maggior parte degli esseri umani sono crudeli, sono senza scrupoli, ma chi te l'ha sono detto? Egoisti. Ma chi te l'ha come? Detto? Te l'ha ma detto? Non è vero, ma non è, vero. È nella tua testa malata. Pensi che la gente, semplicemente la gente che mangia la carne per te è egoista, per te è no, pazza. La gente che mangia la carne è egoista ed è complice. E dunque di facciamoli fuori con il coronavirus. Se il coronavirus ammazza allora i carnivori, stiamo tutti bene. Ascolta, siamo tutti, Cruciani, stiamo tutti meglio. Che, dai. Lo sai che ogni essere umano nell'arco della sua vita muore. Ammazza praticamente circa 100 animali all'anno. Non è che li ammazza, li mangia. Dai. Li mangia. Vassallo, perché li mangia. È diverso. Il coronavirus sì. Per te dovrebbe ammazzare in primis i cacciatori. Altre categorie allora, da far fuori quali sono? Okay. I cacciatori, allora, poi okay. Quelli che fanno la sperimentazione animale. Cacciatori, allevatori, pescatori, circensi, sì. Vivisettori, pellicciai. Sì. E tutte le categorie. Questo che il coronavirus, tu speri che prenda, che ammazzi queste persone qua. Ma ti rendi conto della follia? Io no. no, Vassallo, ma ti rendi conto? Ma ti rendi conto? Ma perché è un virus? Tu sei pazzo, vuoi sterminare intere categorie di persone, centinaia, migliaia di persone in tutto il mondo. Ma lo sai che è riferito sempre a quelle categorie che io definisco di merda, lo sai. Ma che c'entra? Sempre esseri umani sono, cioè sono padri di famiglia, hanno figli. Allora, ascolta, l'essere umano deve controllarsi in qualche modo, perché stiamo mangiando il pianeta. E dunque, se muoiono 1 milione di persone, 2 milioni di persone per il coronavirus, tu sei contento? Ah, diciamo. Ok, se muoiono 20 milioni di animali tutti i giorni, chi se ne ma fosse? Cosa c'entra? Ma questa è una cosa incredibile. Cruciani, se chi rispetta la vita. Ma cosa c'entra col coronavirus? Questo, perché devi essere contento? Perché il coronavirus, vabbè, è una speranza, diciamo, di pulizia, un po' che poi adesso stiamo parlando di Cina, Allora, io adesso non sono razzista, ma poi, sinceramente, ma che cazzo mi frega a me dei cinesi? Per me può anche arrivare uno tsunami e portarli tutti via, ma chi se ne frega? Tanto sono quelli che stanno distruggendo più il pianeta, stanno impattando. E quindi, ma cosa sono? Estremista? Sì, sono estremista. Ma non chi è, se ne non frega? È estremista, sei pazzo. Non è diverso. Sono l'estremista pazzo. Ha una sua logica anche folle. Allora, qui siamo, ascolta, non si può neanche discutere, perché cosa discuti? Gli animali, che cazzo discuti? L'ultima visita che ho fatto nel ministero, mi hanno mandato ovviamente dallo psicologo, hanno detto che sto benissimo. Ecco, ma lo psicologo evidentemente era animalista pure lui, No, era vegano pure lui, cioè, a cagare, va, ciao. Allora, è stata la settimana di Toscani, ragazzi. Questo è matto, comunque. È stata la settimana di Toscani. Io farei un ultimo tentativo proprio in chiusura, Parenzo. Proprio in chiusura, so che sei già in piedi. Italiani! Già, aspetta, ultimo tentativo, aspetta. Italiani. Vediamo un po' se risponde. Fatemi il numero, ecco, bravi, subito col numero di Toscani. Ma non risponderà. Pronto? Oh! Sì, dimmi. Che fai? Non mi rispondi più? Eccoci qua. No, non rispondo più a tutte queste cazzo di radio. Perché? Perché non rispondi perché, più? No, ti dico perché. Io sono sempre stato corretto. Ma hai fatto un'intervista a Prima Comunicazione, scusa, in cui hai detto chiaramente... No, ADN Cronos. All'ADN Cronos. No, ma non capisco, hai detto basta, sei più felice, sei più tranquillo. Sono più felice, tranquillo. No, però scusa, Oliviero, io ti ho sempre ospitato, nel bene e nel male ti ho sempre ospitato. No, lo il problema è bene, se sia bene o male, non c'entra. Alla fine, una parte del bene e una parte del male viene estrapolata e diventa tutto male. Ma tu lo sai, qui non si taglia niente, qui va in onda tutto, no, non si taglia niente. Ma tu lo sai come funziona, no? Tu lo sai come funziona la comunicazione? Lo sai come funziona la comunicazione? Appunto per quello, allora, pronto? Ciao ragazzi. No, però, Oliviero... Venitemi a trovare a casa, ma non rompetemi più coglione con la aspetta un attimo. Ma nessuno ti taglia qua, puoi dire quello che ti pare. Taglierà qualcun altro, dai, non rompetemi i coglioni, per favore. Aspetta, ma chi è che taglia? Aspetta. Ma togli viva voce, che so se non sento un cazzo. Togli sto cazzo di viva voce. È finita così. Italiani! Italiani! Arrivederci e come sempre viva la libertà d'espressione, vaffanculo quelli che denunciano, quelli che dicono le loro opinioni, libertà d'opinione in tutti i paesi, come Trump, parlare chiaro, fotterseli di quelli del politicamente corretto, vaffanculo politicamente corretto!